è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Canà, indovini chi li ho preso? Chi? Ma? Ma? Mara? Mara, c'è mia moglie. Maradò. Maradò? Maradona! Maradona, benedetta del coronel. Come ha fatto? Nell'affare è entrato anche Berlusconi. Ah, me lo dovevo immaginare io. La campagna acquisti di Berlusconi, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. La prima persona che sentiamo, Antonio Di Pietro. Berlusconi è un magnaccia della politica. Berlusconi fa il magnaccio politico, no, perché è quello che compra le persone. No, guardi che, lascia stare, io ritengo, lo dico con tutta la serenità possibile, che egli o compra o ricatta. Il caso Boffo lo dimostra, il caso Fini lo dimostra, anche nei miei confronti si è comportato allo stesso modo, lo dicono le sentenze, anche a me ha cercato di comprarmi offrendomi il ministro del Ministero dell'Interno. Uno di quelli che erano indiziati di passare con Berlusconi dall'UDC, Saverio Romano, che è un potente UDC siciliano. Non conosco Nucara, auguri. Poi oggi ha smentito di passare dall'UDC al gruppo di responsabilità nazionale, GRN, che ricorda un po' qualche sigla del ventennio. Voi entrerete nel gruppo dei 20 di Nucara? Assolutamente no, io non conosco l'onorevole Nucara, faccio gli auguri a lui e al suo gruppo di 20. La nostra è tutta una questione interna al nostro partito per fare in modo che la linea politica sia quella che ci ha accompagnato in questi 2 anni da opposizione responsabile al governo Berlusconi. Paolo Liguori, direttore del TGCOM, dice la compravendita è la cosa migliore. Secondo la mia visione, secondo la mia esperienza, fare la cosiddetta campagna acquisti in Parlamento è la cosa migliore che si possa fare, cioè è un atto politico, è una cosa politica, l'ha fatto Prodi, come diceva il collega, lo penso anch'io. Fare campagna fuori dal Parlamento, secondo me, è una compravendita ignobile. E vedremo come andrà a finire, anche perché ci sono nelle ultime ore defezioni in quelli che erano annunciati come i componenti del gruppo di responsabilità nazionale. In diretta da Roma, Luca Telese. Eccomi, ciao, buongiorno. Buongiorno, allora, anzi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Non è più seria questa trasmissione, ma già lo sapevamo, l'avevamo già accertato. C'è stato un momento ieri sera che ha scatenato polemiche tra i nostri ascoltatori. Riascoltiamo. Champagne per brindare a un incontro. E l'incontro in questo caso è stato tra Luca Telese e il sindaco di Adro, Lancini. Questo è il suono delle Alpi. No, è il simbolo della Lega, Lancini. È anche il simbolo della Lega. È il suono delle Alpi, è una tradizione storica, però è diventato il simbolo della Lega. Ecco, qui è stato usato come tradizione storica e non come simbolo della Lega. Il simbolo della Lega è l'Alberto da Giustano. Adesso allora mettiamo, facciamo i banchi dei bambini elementari con la svastica, con la falce e martello, ma diciamo che la svastica è stata usata come simbolo neopagano o greco e che la falce e martello come reliquia del Novecento. Ma cerchi di essere, lei ha fatto un rito griffato della Lega, stia buono e non racconti cazzate. Per me io difendo la scelta che questo suono delle Alpi rappresenta la nostra storia, per chi è leghista rappresenterà anche la Lega, per chi non lo è deve rappresentare le radici, le tradizioni e la cultura di questo paese. E nessuno ha idea. Lei mette la fotocopia del suo simbolo su una scuola impecettata, lei gioca con i bambini, ha iniziato a speculare sui bambini elementari e adesso fa questa stronzata. Per rimanere soli io e te. E la scuola si intitola Gianfranco Miglio, che è padre Lega, quindi c'è il nome, Gianfranco, il simbolo della Lega, potrebbe metterci pure, non lo so, una scheda elettorale. E in quanto professore federalista richiamava perfettamente quello che era l'impegno di questa amministrazione, che nonostante non abbia riscontrato aiuti da parte di nessuno ha girato indietro le maniche con le tasse di Lancini, ma io, noi, allora, noi, io noi, noi, noi questa cosa qui siamo figlio. esempio, se in un comune di sinistra facessero l'asilo Bertinotti e ci fosse il simbolo di fondazione, io direi che quel simbolo, quel sindaco è un testa di cazzo, e penso pure lei. Resta solo un bicchiere. Le critiche, naturalmente, delle moltissime mail che ci sono arrivate sono, da una parte, per le parole utilizzate: cazzate, stronzata, testa di cazzo. Io voglio però sdoganare queste parole dicendo che qui alla Zanzara si può, naturalmente, in certi contesti, perché altrimenti il politicamente corretto impera e noi non vogliamo far vincere il politicamente corretto. Prima cosa. Seconda, il nostro sito dei nostri amici che ci seguono con grande interesse, e noi li ringraziamo sempre, l'Antizanzara, fa una polemica interessante. Leggo le prime righe. Penso tutto il male possibile del sindaco Oscar Lancini, ma il modo con cui Telese lo ha trattato, secondo me, è stato sbagliato. Va bene essere duri e severi e non farla passare liscia a chi vuol fare un po' il furbo, ma gli insulti personali e diretti io li lascerei alle 20 come sgarbi. Perché l'effetto che si ottiene prendendo a male parole una persona è che gli ascoltatori solidarizzano con la persona maltrattata in quanto maltrattata, perdendo di vista l'oggetto del contendere. Luca, come rispondi a questa critica? Guarda, sono contento che si sia aperto questo dibattito e mi è venuto, come dire, istintivo, ma se lo riascolto e se ci penso mi convinco che sia stato giusto. Cioè, pensate la prima cosa, alcune becerate della Lega ci passano sulla pelle con questa leggerezza, loro insultano, dicono che il tricolore va messo nel cesso, ruttano, fanno le pernacchiette e poi hanno una seconda faccia più istituzionale e più pacifica. Sì. Rispetto tutti, però quando uno usa le cattive maniere come fanno loro, quando uno mette in mezzo i bambini, io non accetto il politico. Però dove sono le cattive maniere? Le cattive maniere dove sono in questo caso? In questo caso non sono cattive maniere, è una scelta politica. No, è una scelta politica sciacallesca, cioè l'idea che io vado a indottrinare i bambini e gli piazzo il simbolo della Lega pure al cesso, cioè se il simbolo fosse stato un altro, che ne so, un panda o uno stambecco, non l'avrebbero messo sullo zerbino, sul frontale della però scuola. Però non si rischia di far diventare un martire, non si rischia, dicendo cazzate, stronzata, testa di cia, eccetera, non si rischia di far passare il sindaco come un martire, come una vittima, e dunque non credo, far nascere intorno a lui una solidarietà. Quando la Lega insulta gli altri, nessuno si indietro. Tutti, la metà di quelli che si sono indignati, quando la Lega usa l'indignazione contro gli altri, dicono che tutto sommato è il modo pittoresco della Lega. Allora io sono usato, ho applicato una decima parte di par condicio. Però voglio dirti una cosa, sì, una battuta bella che c'è nella biografia di Chaplin. A un certo punto Chaplin, siamo prima della guerra mondiale, ha un amico, Douglas Fairbanks, che ha buoni rapporti con l'ambasciatore tedesco, sì, e che stima Chaplin, dice: me lo devi far conoscere. Allora si arriva a una festa di compleanno di Douglas Fairbanks e Fairbanks presenta l'ambasciatore a Chaplin e quello dice: sono un suo grande ammiratore, e gli tende la mano. Chaplin si rifiuta di stringerla, allora l'ambasciatore tedesco, ovviamente in divisa, Reich, cambia faccia e gli dice: ma che cosa le ho fatto? E allora Chaplin gli risponde: non è quello che lei ha fatto a me, è quello che ha fatto al mondo. Ecco, io penso che bisogna avere l'idea che non è una questione personale fra Luca Telese e il sindaco di Adro, che sono persone tutto sommato piccole, è la questione dello Stato. Se accettiamo l'idea che qualcuno possa prendere lo Stato e metterci il timbrino elettorale di qualsiasi partito, la falce e martello, la fiamma o il sole delle Alpi, noi abbiamo chiuso. No, io sono d'accordo che è una cosa grave, in una scuola non si fa, però io, Luca, ti inviterei ancora una volta a ragionare su questo, sono molto critico nei tuoi confronti, sui continui rimandi che tu fai, anche in questo caso con Chaplin, ieri con la vicenda del nazismo, a vicende storiche che sono lontanissime dalla realtà attuale, perché nessuno può pensare che gli atteggiamenti della Lega, anche quelli più spacconeschi, anche quelli più folcloristici, anche quelli più duri, anche quelli più infami, tra virgolette, abbiano qualche riferimento al ventennio, al nazismo, a Goebbels, a tutto questo. È una cosa, questa qua, semplicemente inesistente. Però io accetto la polemica, ma tu sai dove troveremo, lo sanno tutti quelli che ci stanno ascoltando, dove troveremo il sindaco di Adro fra un anno? In Parlamento? Parlamento. Beh, fra un anno non ci saranno le elezioni, magari. Fra un anno, fra sei mesi, quando ci saranno le elezioni, il sindaco di Adro, è probabile, in questo piccolo paese, è probabile, e non sarebbe riuscito in un altro modo, usando i bambini. Sì. Due volte, una volta negando il pasto a quelli di cui i genitori non avevano. Non sono d'accordo con te, perché quella cosa la facevano anche i sindaci del Partito Democratico. La sua scuola si sta conquistando un seggio per il questo questo può darsi, ma questo fa parte della politica. È legittimo che il sindaco di Adro aspiri a diventare deputato. Ci sono tanti leghisti per bene che si guadagnano visibilità anche con cose belle, discutibili, interessanti, ma quando tocchi i bambini io non accetto. Senti Salvini, che tu sicuramente consideri un leghista più interessante del sindaco di Adro, su questa vicenda come giustifica il sindaco? A questo punto, se non va bene il Sole delle Alpi, che non è un simbolo della Lega ma è un simbolo che rappresenta la Padania, ripeto, da 400 anni, ci sono in Padania circa 2000 fra chiese, palazzi, baite, fontani e monumenti da abbattere, perché su tutti questi i nonni dei nostri bisnonni hanno inciso il Sole delle Alpi. Possibile che non ci sia, questo lo dico all'amico Salvini, un rappresentante della Lega che critichi questa cosa e che dica esplicitamente che mettere il simbolo della Lega in una scuola è sbagliato? Io credo che Salvini in cuor suo lo pensi, ed è sbagliato anche l'intervento di ieri del ministro Gelmini, quando fa un paragone oggi puntualmente sviscerato da Michele Serra sull'Amaca. Il paragone con i simboli di sinistra che ogni tanto ci sono nelle scuole italiane sono due cose completamente diverse che non hanno nulla a che fare. Sentiamo. Sono sempre per tenere la scuola separata da polemiche di tipo politico. Aggiungo che tutti coloro che con me hanno polemizzato con il sindaco di Adro, mi piacerebbe che lo facessero per coerenza anche le molte volte in cui sono simboli della sinistra ad entrare in classe. Le assicuro che è molto più facile questa situazione che non trovarci il simbolo della Lega. Per coerenza dovrebbero farlo anche in quel caso. Caro ministro, qui non c'è un pubblico, un pulpito pregiudizialmente contrario alle posizioni del ministro dell'istruzione, questo è abbastanza chiaro, ma sono cose diverse. Quando un professore fa una lezione politica ai ragazzi in una scuola, siamo tra i primi a far notare che è una follia. Quando si distribuisce qualche volantino politico all'interno di una scuola, naturalmente da parte dei professori, non da parte degli studenti, siamo i primi a far notare. Ma mettere un timbro, un simbolo indelebile in una scuola è una cosa diversa dalla propaganda politica, che spesso entra dentro gli istituti. E comunque la figura di Togliatti, comunque la si voglia pensare, io sono critico naturalmente a mille sulla figura di Togliatti, fa parte della nostra storia. L'intitolazione di una via a Togliatti può essere sbagliata, forse andrebbe tolta, non lo so, ma la figura di Palmiro Togliatti è comunque una figura storica che ha a che fare con l'Italia, è un po' diverso. Traffico, Luca, torno perché voglio da te un commento sulla campagna acquisti di Berlusconi. La campagna acquisti di Berlusconi per ottenere una maggioranza ampia in Parlamento il 28 di settembre. 800 24 00 24, questa è la Zanzara in collegamento da Roma. Luca Telese in collegamento da non so dove, credo da Roma, anche lui, l'onorevole Antonio Gaglione. Buonasera. Buonasera. Gaglione, lei è del gruppo misto, da dove è collegato lei? Che la sento un casino terribile. È a Bari. Gruppo Noi Sud? No, gruppo misto alla Camera, però lei fa parte di Noi Sud, Libertà e Autonomia. Faccio parte di quelli che sono stati acquistati. No, non mico ho detto questo. Aspetti, adesso glielo chiedo. Lei fa parte però di un gruppo che si chiama alla Camera gruppo misto. Ma da indipendente. Però misto, ma questo fatto che io partecipavo al gruppo misto, sono entrato nel gruppo misto. Sì. Poi alcuni colleghi, sia sì, parlamentari che medici, perché mi sembra che siano tutti medici, mi hanno chiesto di stare un po' insieme. C'era un programma che riguardava il Sud, io sono indipendente, senza nessun vincolo, sì, di votazione per il centrodestra, era chiaro con tutti. Benissimo, allora ricapitoliamo un po' però, onorevole Gaglione, caro Telese, la situazione è questa. L'onorevole Gaglione viene eletto nelle liste del Partito Democratico in Puglia, poi credo verso la fine del 2009 passa nel gruppo misto. Successivamente, così ci racconta, siccome ci sono alcuni medici, amici, colleghi di Gaglione, che Gaglione è un cardiologo, passa, insomma, aderisce a Noi Sud. Nel gruppo misto stiamo? Sì, tutti nel gruppo misto, infatti ho detto, lei aderisce al gruppo. Gruppo misto, io sono un indipendente del gruppo misto. Del gruppo, però che c'entrano i colleghi che medici, scusi Gaglione? Erano colleghi parlamentari, ho detto, mi sembra che siano anche medici. Cioè non è che i medici fanno un gruppo. È importante per lei questo? Ma no, non è importante, però sì. No, io vedo che lo sottolinea molto. No, mi pare strano. È un fatto importante, no, che dobbiamo parlare. Sì, adesso parliamo subito. Mi piace parlare di cose concrete. Sì. Se lei vuole parlare di cose concrete, continuiamo. Gaglione, parlo subito di cose concrete. Niente, ma sottolinea. particolari che non sono proprio importanti. Vabbè, Telese, sono importante o no? Il mi preoccupa tanto, non riesco a capire. Importante. Io non conosco la sua, sto prendendo a Cruciani, che cosa la preoccupa di questi particolari? Acquistato o non acquistato, questo vuole sapere. No, ma adesso glielo chiedo, Gaglione. Allora, qual è il fatto importante? No, qual è il fatto importante? No, ma non è un fatto importante, è curioso il fatto che lei abbia detto, siccome nel gruppo c'erano alcuni amici medici. No, erano amici del sud, ho capito, mi è sembrato importante questo discorso, senza che ci sia nessun vincolo di votazione per la maggioranza. No, ma non ha capito, era curioso il fatto che i medici si mettessero insieme, questo mi incuriosiva. Cioè... No, ormai non so neanche se sono tutti medici. E lei l'ha detto, no. Tutti i medici. Mi sembra che alcuni, secondo me l'onorevole Sardelli è un medico, è un collega del mio, di un paese vicino al mio. Lasciamo perdere questo argomento allora, Gaglione. Ma lui l'ha sottolineato molto. No, era incuriosito importante. Dal fatto che oltre alla creazione non di vari... Non si incuriosisca del fatto importante, non si incuriosisca dei partiti. Ma mi lasci incuriosire di quello... Gaglione, mi lasci incuriosire di quello che, da quello che voglio, abbia pazienza. Qual è l'argomento della serata? Campagna acquisti? Allora, lei voterà la fiducia a Berlusconi o no? Io non faccio parte del centrodestra e non voto la fiducia a Berlusconi. Oh, benissimo. Siccome benissimo. Oggi, siccome il Corriere della Sera oggi... Mi hanno dato notizie false, guardi. Non mi hanno dato. Ho letto che lei è considerato uno dei sicuri. Ho letto una notizia falsa. Ho letto una notizia falsa, benissimo. Lo so. Perciò la sto smentendo. È stato contattato da qualcuno? Da nessuno. Da nessuno? Guardi, da nessuno. Nessuno del centrodestra l'ha contattata? Nessuno del centrodestra mi ha contattato. Siccome ci sono altri parlamentari del gruppo Noi Sud che invece voteranno la fiducia a Berlusconi, Lo so, loro sono liberi di fare qualsiasi cosa, vengono dalla destra, credo. Io non vengo dalla destra. Lei non viene dalla destra? Lo so, l'ho detto lei, sono stato eletto nel Partito Democratico. Sì, e per carità, nessuno lo nega. Lei sa che la transumanza parlamentare non è una cosa che non appartiene all'Italia. Ma io non l'ho mai, guardi, glielo dico, lei si informi della mia storia politica e vedrà come io non ho fatto transumanza. Sa perché io ho aderito alla Margherita? Perché ha aderito alla Margherita? La Margherita non aveva avuto neanche un senatore quando io sono stato eletto senatore, quando si era eletti dal popolo. Sì. La Margherita non aveva avuto neanche un senatore in Puglia. Sì. Io ero stato candidato nel collegio con la più bassa percentuale. E quanti voti ha preso? Con la più bassa, 51.000 voti. 51.000 quando si prendevano ad uno. Con la più bassa percentuale. L'ho trasformato nel collegio con la percentuale più alta. Va bene. Alta. Senta, le posso chiedere una cosa? Siccome lei ha preso... No, sottolinei questo fatto. No, lo sottolineo. Posso solo... Gaglione, ma perché dobbiamo litigare io e lei? Non abbiamo nulla per... Assolutamente no. Voglio che lei, come giornalista, dia importanza alle cose importanti. Le cose importanti le decido anch'io, non è che le decide solo lei, però. Lo so, ma intanto la per esempio è importante che lei abbia partecipato solo al 9% delle votazioni questo in Parlamento? Sì, perché nelle votazioni mi dispiace per quello che lei pensa, forse 91% di assenze, 91% di assenze non influisce per niente sui lavori parlamentari. Ma che significa? Questo l'autorizza a non essere presente in Parlamento? No, come non significa niente? Allora lei mi dice che non significa niente se la mia votazione non influisce o meno. Ma scusi, lei ci dovrebbe essere in Parlamento, lei ci dovrebbe essere in Parlamento, a prescindere dal fatto che sia importante o no. Ma sì, c'è un meccanismo parlamentare da parte di nominati che ma anche lei è nominato, si dimetta se non le va bene. Io sono nominato, è chiaro che sono nominato. E si dimetta se non le va bene, si dimetta. Parliamo di legge elettorale e io dico che voterò una legge elettorale che sia a misura di democrazia. Scusi, Gaglione, perché lei non ci va in Parlamento? Perché ha da fare, una volta mi disse io faccio il medico, faccio il medico. Io non vado in Parlamento sino a quando i meccanismi parlamentari rendono inutile il voto di un parlamentare. Vabbè, ma Luca, così è troppo comodo. Uno non va in Parlamento finché i meccanismi parlamentari non sono... Telese. È troppo comodo polemizzare. Scusi un momento. Un attimo, Gaglione. No, guardi, stavamo parlando di un tema che è quello della campagna acquisti. Un attimo, Gaglione, un secondo. Credo che lei sia una persona onesta, ma cosa c'entra il fatto che uno non è influente, può non essere influente, o il fatto che lei percepisce uno stipendio e non si presenta sul posto di lavoro? Temi su cui piacerebbe a tutti. Niente sul tema della serata, campagna acquisti. Ho capito, Gaglione, ma noi saremo padroni di fare le domande o no? Prendere 12 10.000 euro al mese non andrà al lavoro? Ma qual è? Campagna acquisti? No, scusi, Gaglione, lei ha già detto che non aderisce al gruppo di responsabilità nazionale e che non potrà... Non faccio parte dei parlamentari acquistati. Benissimo, e non potrà mai la fiducia a Berlusconi. Le posso chiedere, come ha detto Telese, perché lei non va in Parlamento pur prendendo lo stipendio? Glielo posso chiedere o no? Non ho detto che non vado in Parlamento. Beh, 91% di assenze. Dopo un 10% di presenze. 10%? Il voto non influiva per niente sulle decisioni. E qualsiasi proposta, io glielo assicuro. Ma che significa? Lei deve avere un disagio, se no non griderebbe così. Lei stesso deve avere un senso del pudore, se no non griderebbe così. Deve un po' vergognarsi, se no non griderebbe così. E io l'apprezzo per questa vergogna. Io non mi vergogno, guardi. Sì, perché lei prende uno stipendio e non va a lavorare. E poi dice, però faccio il 10% di presenze. E caro onorevole Gaglione, tra il 90% di quelli che ci seguono dicono, ma questo è pazzo. No, guardi. Scusi, Gaglione, lei come giustifica il fatto che il 91%... I meccanismi parlamentari. E voi, i meccanismi parlamentari voi li dovete spiegare bene però alla gente. Ma perché non si dimette? Noi gli spieghiamo, ma lei perché non si dimette? Eppure ricco, c'ha una bella professione, c'ha il suo reparto ospedaliero. Non presentando le scusi, se lei dice i meccanismi parlamentari non funzionano e io non vado alle votazioni perché sono inutili, perché non se ne va? Se intanto vedo che cambiano i lavori parlamentari, e così si dice, dovrebbero cambiare, io non sarò utile. E guardi che io durante la mia storia politica sono stato molto più utile di quello che ho capito, Gaglione, ma il ragionamento non torna. Se vuole proseguiamo alle 7:15, se lei ha ancora tempo, così finiamo il ragionamento. Avessa fatta nada quella che fatta a me, stomma t'avessa accisa e può sapere perché. Perché in coppa sta terra femmina come a te non già una sta mamma onesta come il mio antimoralismo sta nel fatto che io non do giudizi sui comportamenti dei singoli. Ognuno deve essere libero di fare quello che crede di sé. L'unici giudizi che do sono sulla politica. Non riteniamo che sia molto più grave essere eletti per realizzare un programma e poi mancare quell'impegno e cambiare formazione politica o schieramento politico? Io penso che sia più grave, che quello sia una forma di prostituzione del pensiero. Si doce con mozzucchero. A non me non interessa quello che fanno le persone a casa loro e nel loro letto. Tutto qua, dietro quell'uscio, io non guardo. Non mi scandalizza che si umili il corpo nella vita. Non so perché la politica deve essere separata dal resto della vita. È strana la vita. Giorgio Stracquadanio ieri sera alla Zanzara per spiegare a modo suo l'uscita durante Klaus Condicio, dice di non aver detto quelle cose, però rivendica il fatto che il corpo si possa usare in politica, perché il corpo fa parte della vita. Renzi, Stracquadanio, che sostanze usa? Leggere quel deputato di Forza Italia, del PDL o come si chiamano adesso, Stracquadanio, che dice oggi che tutto sommato che male c'è a prostituirsi? No, è legittimo. È legittimo prostituirsi per avere un posto in Parlamento. Cioè io non riesco a capire come si possa non alzarsi e dire ma tu che sostanze usi? Luca Telese in collegamento da Roma, abbiamo richiamato l'onorevole Gaglione, caro Luca, il quale ci ha detto immagino un po', devo lavorare. Per il suo studio di cardiologia, qualcuno per l'ospedale. Che l'abbiamo trattato male, che siamo stati bruschi, fra l'altro voglio veramente che le persone la pensino direttamente a me. Venite sul mio sito, scrivete cosa ne pensate. Lì purtroppo finora ho ricevuto complimenti, voglio sentire anche qualcuno critico. Su Adro? Però su il Adro, caso di Gaglione, dico su Adro, sì. Il caso di Gaglione è fantastico, perché tutti vorremmo prendere le guarentigie del deputato, lo stipendio 20.000 euro, non presentarci in aula e poi dire mi piacerebbe andarci, ma con questo Parlamento così decaduto. Beh, se è decaduto ti dimetti. Sì, ma soprattutto perché i lavori parlamentari, i regolamenti parlamentari non consentono che il mio voto abbia un peso. Ma che significa? Allora ti dimetti e te ne vai, non ha nessun senso. 91% di assenze, uno dei più assenteisti in assoluto, una cosa pazzesca. Titoli del TG3. Il peschereccio mitragliato dai libici, governo inerte, preoccupa la facilità con cui si spara, dice il vescovo di Mazara, esponente della CEI. Maroni dice che la Libia si è scusata e che è stato un incidente, ma il comandante smentisce, sapevano che eravamo italiani, hanno sparato per uccidere. Napolitano, bene il rilancio del governo, il ricorso al popolo non è un balsamo per ogni febbre, contro di me, polemiche sgarbate. È già fuga dal gruppo di sostegno a Berlusconi. Nucara al TG3, ora sono pessimista. Nel PD, confronto aperto sulle alleanze. Allarme di Banca Italia, nuovo record del debito pubblico a luglio. Giù le entrate del fisco nei primi 7 mesi dell'anno. La Commissione europea apre una procedura di infrazione nei confronti della Francia per l'espulsione dei Rom. Parigi esprime stupore. Revocato lo sciopero di 3 giorni indetto dai gestori dei distributori di carburante che sarebbe scattato domani mattina e si va verso un accordo. Allora, questo Nucara, Luca, è spettacolare perché ieri era ottimista, uscito dall'incontro con Berlusconi, agenzie di stampa, televisioni e sicuramente faremo il gruppo di responsabilità nazionale. Oggi invece dice sono un po' pessimista. Certo, se si affidava a Guaglione stiamo freschi, cioè, poi soprattutto stiamo freschi per le votazioni. Se Berlusconi doveva affidarsi a Guaglione di Noi Sud, beh, insomma, si vada a cercare qualche deputato più presente, non quelli assenteisti in Parlamento. No, perché magari viene, magari. Ah, dici magari. Stimolato da qualcosa, a quel punto verrebbe. C'è un ascoltatore però forse leghista sul sindaco di Adro. Sentiamo Franco da Milano, buonasera. Buonasera. Almeno così me lo presentano, Gaglione, non Guaglione. Io ho detto Guaglione così perché è un cattivo. Pronto? Guaglione. Prego, Franco, prego. Sì, buonasera. Senta, io volevo intervenire sul sindaco leghista di Adrio. Sì. Lei è un simpatizzante della Lega, Franco? Sì, sì, sono un leghista. Sono leghista, bene. Sì, sì. Ecco, volevo chiedere un attimino a lei e al suo dettagliese se ci fate o ci siete. In che senso? Nel senso che mi sembra che voi conoscete come va la politica. Bene, noi leghisti non ci interessa diventare sindaci di una città o di un paese per andare ad amministrare la città. Amministrare già la città. Ma come no? Scusi Franco, ma che no, mi lasci finire, poi dopo intervieni. Sì. Noi leghisti andiamo su perché abbiamo degli ideali e dobbiamo fare delle azioni per quello che è la nostra politica. Ci devono essere degli ideali, che può essere il sole delle Alpi, può essere non fare venire gli stranieri in un paese che non fanno niente e quant'altre cose. Questo è fare politica. Scusi Franco, governare un paese. Non si può pretendere che un leghista o che presso va su solo tanto per così per governare. Scusi Franco, lei lo dice ironicamente, immagino, no, sul serio. No, lo dico sul serio. Cioè, lei seriamente dice che uno viene eletto a sindaco e non è importante che amministri un paese. No, non è importante, io devo andare su e portare avanti i miei ideali per cui sono stato eletto dalla gente, dalla mia gente. Ho capito Franco, ma che significa? Significa che noi oggi abbiamo dei comuni, anche dove abito io, che ci sono tutte le persone all'interno di questo comune assunti dall'amministrazione precedente di sinistra e assumeva tutte persone del loro ma questo campo. Questo scusi non c'azzecca oggi, nulla, non c'entra nulla col discorso. Franco, lei ha qualche incarico istituzionale in qualche comune? No, non ce l'ho. Non io le sto dicendo che preferisco anche uno di sinistra che vada su e porti avanti quelli che sono i loro ideali. Ma guardi che anche facendo politica, anche amministrando i paesi si portano avanti i cosiddetti ideali, Franco. L'unico partito che ha degli ideali è la Lega Nord. Ma cosa c'entrano gli ideali con l'amministrazione e col mettere i timbri di un partito in una scuola, Franco? Ma mettiamo un ragioniere a fare il sindaco, ma che senso ha? Non ha senso. Ma guardi che fare politica... Fare politica, no? Politica è questo, di fatto, ah, fare politica è questo qua, è mettere il simbolo della Lega in una scuola. Anche quello. Però in questo caso, Luca, in questo caso c'è la rivendicazione, c'è una rivendicazione esplicita. Magari il sindaco di Ado avesse detto questa cosa, no, Luca? Ma io è una bella rivendicazione, che tra l'altro è più sincera del sindaco di Ado. Ma io voglio chiedere una cosa: secondo lei, se in un comune c'è un sindaco leghista, fascista o comunista, la scuola diventa sua o resta un bene dello Stato? Ci mette il suo timbro, oppure è giusto che mantenga il possesso e la proprietà dei beni dello Stato, che non devono avere colore politico? Franco? Dica. No, ha capito quello che chiede Telese? No, non ho sentito. Beh, lei continuava a parlare, certo. Allora, la cosa è questa. Secondo lei è giusto o no? Luca, brevemente riassumi la domanda. Chiedevo se secondo lei è giusto che un sindaco, magari fascista o comunista, metta i simboli del PC o del Movimento Sociale su una scuola che appartiene allo Stato. Qualunque sia il sindaco, la scuola resta dello Stato. E questo, e loro vogliono fare questo, che lo facciano. Poi se la gente non lo devono fare. Qual è il problema? Non capisco il problema. Scusi, ma come non capisce qual è il problema? I bambini, ma anche, che ne so, in un liceo, lasciamo perdere i bambini, anche in un liceo, le pare normale che se quel comune viene amministrato, non so, dal Partito Democratico, perché ha il 70% dei voti, mettono i simboli del Partito Democratico grossi così nella scuola? Ma lei sta dicendo delle cose che non esistono. Ma come non esistono? L'avete fatto voi ad Adro? Mi scusi, come non esistono? Ma scusi, i professori di oggi cosa crede che fanno? Sotto è quello che fanno. Ma è un altro discorso, questo l'abbiamo. Ma che discorso è quando il mio figlio va a scuola e gli fanno leggere l'Unità? Che discorso è? Scusi, se suo figlio va a scuola e le fanno leggere l'Unità, chi fa leggere a suo figlio l'Unità è un cretino, abbia pazienza. Ma che c'entra questo? Quei simboli restano, l'Unità scompare il giorno dopo. Noi vogliamo che quei simboli restino, bene, perché questa è la nostra politica. Noi vogliamo che se ne dica, il leghista ha degli ideali, e questo è un ideale. Se per gli altri ma non li va bene, imporre agli non altri. Prega, non questi ideali, Franco, scusi un attimo, Franco, si fermi, questi ideali. Le faccio una domanda: è giusto che il leghista voglia imporre agli altri, compresi i bambini, i suoi ideali? Sì, è giusto. Allora va bene, se uno rivendica questa cosa. Allora lei è un genio, l'ha giustificata bene, la ringrazio. Franco, l'ha giustificata, lei questa cosa qua l'ha giustificata nella maniera più logica, perché lei dice, è vero, noi vogliamo che i bambini nella scuola sappiano che quello è il simbolo della Lega, perché quella scuola lì l'abbiamo fatta noi con i soldi privati, ed è giusto che vengano indottrinati in questo modo, è giusto? Scusi, Cruciani, io non sono un ipocrita, io lo dico onestamente. No, ma infatti lei fa bene a dirlo onestamente, per me è una follia, ma lei fa bene a dirlo onestamente, per carità, molto più onestamente di tutti quelli che dicono non è il simbolo della Lega, i simboli della sinistra, eccetera eccetera. Oh, Luca, finalmente quello è il nostro simbolo. Ci voleva un militante della Lega a dirlo. Adesso dobbiamo fare una sintesi di Franco e rimandarla a Nastro, perché la spiegazione è autenticamente corretta. Sentiamo un altro ascoltatore su questo, ti prego. E aspetta, fammelo beccare. Dov'è? Paolo da Milano, sempre da Milano. D'altra parte l'argomento è lombardo, ma non solo, naturalmente riguarda tutta l'Italia. Paolo, dica. Sì, buonasera dica. A voi. Ma io sono un votante della Lega, ma sono assolutamente non d'accordo con quello che ha fatto il sindaco leghista. Mi sembra così evidente che indottrinare dei bambini sia una cosa sbagliata. Tuttavia credo che la provocazione, se vogliamo parlare, come dice Telese, di tutelare i bambini, vorrei sapere cosa ne pensa quando, per esempio, alle manifestazioni, soprattutto della sinistra, è pieno di bambini che sventolano bandiere. Paolo, l'abbiamo già detto ieri. Non è la scuola, quelli vanno in piazza con i bambini. Abbiamo già detto, io non porterei mai mia figlia in piazza. Vedono i giornali che li fanno vedere, che cantano, festeggiano, magari manifestazioni contro la Gemmini. No, fanno cantare i bambini delle canzoni contro la Gemmini. Ma abbiamo già detto questo qua. Comunque, quelle cose là scompaiono nel momento stesso in cui vengono fatte. Un simbolo inciso col fuoco in una scuola è una cosa diversa, Paolo, o no? Lei lo riconosce come pure premessa, ho posto come premessa che quello che ha fatto il sindaco leghista è una cazzata. Vabbè. Ok? Sto dicendo che se vogliamo porre... Ha sdoganato pure la parola cazzata, dei, Luca, benissimo. Sì, i bambini... Volevo dirle solamente un'altra cosa. Sì. Se posso. Prego. Io credo che l'atteggiamento nei confronti della Lega... Io non sono un leghista, io voto Lega, le dico molto semplicemente... È una cosa diversa, lei fa bene a dirlo, sì. Perché credo che gli ideali della Lega che... ponga la questione settentrionale. Sì, allora? E io sono convinto che ci sono politici molto validi. E allora, Paolo, arrivi alla conclusione perché ho la borsa. Ma credo sostanzialmente che il fine della Lega sarà, che la fine della questione settentrionale sarà la secessione. Va bene, questo è un altro discorso. Paolo, ho capito, adesso non andiamo sulla secessione, sulla cosa, eccetera. Io voglio capire se lei pensa che questa cosa danneggi un leghista serio. Come, non ho capito? Questa cosa qua danneggia uno della Lega che non fa queste spacconate, queste buffonate, questo atteggiamento del sindaco di Adro, secondo lei? Ma questo io credo che non danneggi. Perché sì o no? Lo danneggi o no? Sì o no? Non danneggia la Lega. Non danneggia la Lega. Benissimo, borsa. Un po' di teatrino politico da questa mattina. Daniela Santanchè versus Dalia, UDC, sentite. Ma stavate dialogando con Vendola in Puglia, che è l'esatto contrario di quello che voi da anni, da decenni, per la vostra tradizione democristiana state portando avanti, per cui che adesso lei venga qua bello candido a dire vediamo sui programmi, no, ci dica che vedete sulle poltrone, che è più realista. Io non voglio polemizzare con lei, ma l'unica che è seduta su una poltrona è lei. Esatto, ed è stata votata, lei era la candidata della destra alle politiche. Sì, esatto. Quindi guardi, non dia lezioni. Poi no, io lei posso, lo sa perché no, era la per carità, lei, della può, destra, lei ha per tutte le opinioni rispettabili, però ecco, non Gianfranco alzi il ditino Fini. Perché il ditino non lo può alzare. No, per il resto però, può dire quello no, che guardi, vuole, per carità. Però lei non ci può dire che noi siamo attaccati alle poltrone, uno per volta. Questo non lo accetto. Poi lei ha le sue opinioni, io le rispetto. No, per carità. Mi dispiace molto. No, dico, io rispetto le organizzazioni quando non sono offensivo. Ma volevo fare un'altra domanda appena. Dalia, UDC e Santanchè. Mi scusi se le ho fatto saltare il nervo, dice a un certo punto la Santanchè. Sentitela ancora, Chi le ha fatte le alleanze in certe regioni che 3 minuti fa ha detto guardi noi che le alleanze regionali nascono da accordi fatti sui programmi per il governo delle regioni. No, noi in Campania, noi abbiamo fatto l'alleanza di centrodestra su Caldoro, non su Cosentino, perché condividevamo la persona e il programma e abbiamo fatto anni di opposizione al governo Piemonte Bassolino. Non in Lombardia siamo andati da soli, pur essendo alleati con Dalia, Formigoni. In Piemonte Dalia, siamo andati corteggiatissimo col PD contro la Lega, perché voi siete sotto schiaffo della Lega, siete al cappio, al guinzaglio della Lega. Dalia, lei questo è corteggiatissimo, ma è molto restio, mi pare, questa mattina. Pubblicità, pubblicità, Veltroni. Siete al cappio della Lega. E poi Santanchè ritira fuori una frase che già aveva detto i Finiani, palle di velluto. Io non vorrei palle di velluto, nel senso che uno non deve lanciare il sasso e poi togliere la mano. Se va bene questo governo, se va bene il programma, se hanno, voglio dire, e continueranno a votare. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Romano da Firenze, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, molto brevemente, state facendo una lunga polemica sulla bandiera della Lega fuori dalla scuola. Non è una bandiera. Giustissimo. Il simbolo della Lega. È diverso, anche se le bandiere possono essere rimosse quando uno fa le panchine, i bagni, i banchi di scuola, le porte col simbolo della Lega impresso, è una cosa differente. Comunque, dica. Perché esporre bandiere invece fuori dalla scuola. No, ho detto, è una cosa diversa. Lungamente fatto con le bandiere della pace in tutte fuori anche dai comuni. No, però mi scusi, non Romano, mi sembra Romano. Che sia stata una grandissima polemica. Romano, io non sono un amante di quella bandiera della pace. Non penso che non significhi nulla. Non individuava una parte politica, sì, una ben precisa parte politica. Beh, una cosa un po' trasversale. Adesso la bandiera della pace può essere esposta anche da un cittadino qualunque, non ha nulla a che fare con la politica. A casa propria fa quel che vuole. Sì, anche la bandiera della Lega a casa propria. Ma io sono la espone, guardi, e nessuno parla. Sono d'accordo fuori con lei. Dagli uffici pubblici, sì. Al di fuori della bandiera italiana e oggi non può essere esposto nulla. Quella dell'Europa non può essere esposto nulla. Sono d'accordo con lei. Della Lega, né quella della parte. Però è una cosa diversa. Non capisco perché per una polemica che non finisce mai e per l'altra poverini, però tutto sommato. Però mi scusi Romano, sono due cose completamente diverse. Abbia pazienza. E ripeto, io secondo me la bandiera della pace non dovrebbe essere esposta in un ufficio pubblico. E sono d'accordo con lei. Ma una cosa è il simbolo di un partito, una cosa è la bandiera della pace. Abbia pazienza, Romano. A me quella bandiera non mi dice nulla, quel simbolo non mi dice nulla. Penso che spesso venga utilizzato politicamente. La bandiera per una scelta ideologica. Sì, d'accordo, Romano. Non per l'amore della pace, non ci prendiamo per i fondelli. Sì, ma ho capito, poi spesso quella bandiera è stata utilizzata anche all'interno di simboli politici. Posso essere d'accordo con lei fino a Arcobaleno? Sì, non è che l'ho sognata io la notte. Certo, Romano, ecco. Però una cosa, ripeto, è la bandiera della pace, una cosa è il simbolo della Lega. Sono due cose diverse e comunque, ripeto, se ci fosse il simbolo della pace impresso in una scuola, in una panchina, sarebbe secondo me la stessa cosa. Siccome non è così, al massimo espongono delle bandiere, le bandiere possono essere rimosse, sono due casi completamente diversi. Però, perché ancora in alcuni comuni ancora le troviamo, quindi... Ho capito, ma la bandiera della pace non è che è immediatamente percepito come simbolo politico, Romano. Non mi dica questo. No, questo, di un partito politico, di un partito, di un partito. Di una parte politica, mi sembra, sì. No, so, di una parte politica, sicuramente non è che è caduta così, quindi. Sì, sì, ma è un, come dire, un ragionamento che uno fa indirettamente, cioè come secondo, no, come... Non lo fa subito come ragionamento, non è che identifica subito un partito politico, no? Ripeto, per quello che mi riguarda, fuori dagli uffici pubblici e negli uffici pubblici deve essere la bandiera nazionale e la bandiera dell'Europa è al massimo d'accordo, quella sono regione, d'accordo, però il paragone con la scuola di Adro, il paragone con la scuola di Adro non regge. La ringrazio. Daniele da Varese, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Dica. Io volevo solo intervenire facendo notare che probabilmente anche i leghisti non sanno che il Sole delle Alpi non è un simbolo leghista nativo, né è un simbolo dei nostri nonni o dei nostri bisnonni. Io abito in provincia di Varese, c'è una chiesa a Brebbia del 1100 che ha questo simbolo, che è stato scopiazzato da chi ha fatto il Sole delle Alpi senza... cioè è proprio una scoppiazzatura, per cui la Lega si è appropriata di questo simbolo, ce lo spaccia come il simbolo posto ovunque dai nostri nonni, dai nostri bisnonni, ma non è così. Daniele, guardi, una spiegazione l'ha data il professor Gilberto Ledo questa mattina in un'intervista a Riformista, cioè il fatto che la Lega si sia appropriata di questo simbolo, il colore verde. In ogni caso, quel simbolo lì, quello impresso sulla scuola di Adro, è il simbolo della Lega. Inutile girarci intorno. L'ascoltatore di prima che ci ha chiamato da Milano è stato molto chiaro, al di là delle parole e delle chiacchiere dei politici. Lucianna da Firenze, buonasera. Signora da Firenze, Lucianna, buonasera. Eccomi, ci sono. Dica pure. Allora, senta, intanto mi deve scusare, Cruciani, ma io sono emozionatissima perché sono tantissimo tempo che posiziono il mio ritorno dal lavoro, 2 ore di macchina per la sua trasmissione. La ringrazio molto, questo, però non si emozioni, non si emozioni, perché non è il caso. Dica. Va bene. Allora, chiamo riguardo all'utilizzo del corpo in politica. Sì. Perché diversamente da quello che ha detto Staguadagno, non ne faccio tanto una questione di giudizio, non do un giudizio, però non trovo opportuno che dei politici debbano discutere di questo, che attiene a una sfera personale, poiché non è obbligatorio passare da un letto. Abbiamo in politica molte donne, non belle, che hanno raggiunto delle ottime posizioni e ce l'hanno fatta. Per cui credo che questo non possa essere un argomento, non possa essere normato, non capisco perché se ne parli e soprattutto in maniera così generica, non ci sono nomi. Sì, no, lei ha ragione. Straguadagno dice di aver preso spunto da un'intervista di una sua collega o ex collega di Futura Libertà, Angela Napoli, che è stata nostra ospite, che aveva rilasciato un'intervista molto controversa sul fatto che alcune donne si sarebbero prostituite per entrare in Parlamento. È un argomento che comunque è sul tappeto. Io sono d'accordo con lei. A me non interessa molto perché una persona è entrata in Parlamento, ma interessa cosa fa in quel Parlamento. Filippo Facci, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Straguadagno ieri sera, Giorgio Clelio Straguadagno, ospite della Zanzara, ha detto anche che se mai qualcuno facesse outing o coming out su una cosa del genere, ha utilizzato questo paradosso, non dovrebbe dimettersi. Sentiamo l'audio, non dovrebbe dimettersi. Questo ha detto Stracquadanio. Mandiamo in onda, ce l'abbiamo, eccolo. Alla domanda se uno ammettesse di averlo fatto dovrebbe dimettersi, la stata risposta è stata no. Questo Stracquadanio, facci. Io sono, non condivido una parola in generale di quello che sta dicendo da un paio d'anni Stracquadanio. E addirittura d'anni. Sì, no, Stracquadanio è fluente da molto tempo, io lo conosco dal 1993 quando faceva in sostanza l'addetto stampa di Tiziana Maiolo, sì. Perché è un personaggio che mi piace molto da un certo punto di vista, io ho la passione per tutti gli ex radicali, di percorsi appunto particolari di Daniele Capezzone, di Gaetano Quagliariello, non ne parliamo, Giuseppe Calderisi, di Tarada, Elio Vito, un altro ex radicale, Eugenia Roccella, Benedetto della Vedova. Però quello che voglio dire, per non scappare dal tema, è che secondo me ha detto una cosa abbastanza ovvia, cioè ha detto non siamo uno stato etico per cui le ragioni per cui una persona è riuscita a farsi eleggere nel Parlamento, nel momento in cui non riguardano delle irregolarità, appunto riguardano soltanto lui, la sua eventuale etica personale, per cui se l'ha fatto piacendo per le proprie idee o piacendo per il proprio corpo, non ci riguarda direttamente, ci riguarda indirettamente. Dunque, mi sembra molto, di capire molto generico. Ecco, mi sembra di capire però che cos'è inopportuno. Allora, perché non sei d'accordo? Perché è inopportuno? Perché non lo doveva dire? Perché non doveva affrontare questo argomento? No, io sono d'accordo. Non sono d'accordo con tutto quello che con altre cose che ha detto. Ho dimenticato di dirlo forse. Stavolta non mi sembra che abbia detto granché. Cioè, mi sembra che. Cioè, lui ha detto che con il corpo si fa carriera. Si fa carriera. Si fa carriera in tanti ambiti, anche in politica, e non è uno scandalo, questo vuole dire. Si fa carriera in tanti modi, anche con il corpo, dopodiché ecco, nessuno è in grado, voglio dire, di fare una scomposizione delle ragioni che hanno spinto una persona a ottenere dei risultati. Certo. Questa è una maniera, come dire, molto sofistica di rispondere alla tua domanda. Poi ce n'è una molto meno sofistica. La ragione per cui si sono incazzati in tanti o sono saltati su evidentemente fa parte di un problema più ampio, che è il fatto che rappresenta un nervo scoperto. Cioè, in altre parole, qualcuno pensa che nel nostro Parlamento ci possa essere, nella politica, diciamo, della Seconda Repubblica in generale, un coefficiente di meretricio particolarmente alto. Bene, io penso, anzi io sono certo che è stravero. Non si discute in questo. Cioè, ed è un problema secondo te o no? Sì, secondo me è un problema. È un problema, non è che, ripeto, voglio scappare dalla domanda, ma è un problema che in parte è legato anche alla legge elettorale, nel senso, non è concepibile che possa essere sufficiente che una donna che dia le proprie doni e le proprie grazie, o un uomo in un futuro, possa ottenere un seggio parlamentare o d'altro tipo, laddove in effetti con questo sistema è sufficiente, potrebbe essere sufficiente questo per nominarla in un Parlamento che appunto è di nominati, perché in un futuro non potrebbe più bastare tutto questo. Voglio sentire, mi sembra che ci sia una persona che si è arrabbiata molto di più però con Stracquadanio, ed è Alessandra Mussolini. Buonasera. Ma io non mi arrabbio più per niente, perché dopo tutto quello che sto sentendo, anzi devo dire che concordavo invece con le affermazioni che sta facendo Facci, perché è tutto vero. Però cioè, tutto vero cosa? Onorevole Mussolini, cos'è cos'è tutto vero? Mi scusi. È tutto vero quello che lui sta dicendo, cioè certamente queste cose accadono, non accadono solo in Parlamento, accadono fuori. D'accordo, però la domanda che le faccio... Io mi sono risentita per quelle ragazze che per essere assunte per fare le cameriere hanno dovuto fare una sfilata, perché diventano delle cose umilianti. Stracquadanio poteva starsi zitto, oppure fare lui outing prima di chiedere agli altri, lo facesse lui outing, ma che vuole Stracquadanio? Facesse un outing bestiale. Lo facesse domani. Che outing deve fare? Che ne so, visto che l'ha chiesto agli altri, cominciasse lui, perché a me quelli che puntano il dito cominciasse lui, visto che no, però Stracquadanio non è che ha chiesto a qualcuno di fare coming out o outing, sì, di dirsi voi. No, ha detto che con il corpo si può fare carriera anche lui politica. Lui non lo può dire. Perché non lo può dire? Non lo può dire perché diventa una normalizzazione di cose che non devono essere, non possono essere normali. Perché se noi dobbiamo combattere e dire ah, tanto lo fanno tutti, ma non fanno tutti, non è vero che lo fanno tutti, scusatemi. Però, e se noi dobbiamo dare all'esterno e lui va a dire queste cose che sono prive di qualsiasi tipo di, anche se vogliamo, moralità, di dignità, quello che volete voi, come Angela Napoli che ha insinuato, lui ci ha richiamato e ricalcato sopra, e come si fa? Cioè basta, ma gli uomini, parliamo degli uomini, parliamo del fatto che c'è sempre la domanda. Però mi scusi un attimo, problema sono gli uomini, non siamo noi donne. Allora, non è Mussolini, però lei ha detto Facci ha ragione. Facci ha detto una cosa, è vero che in questo Parlamento, ma negli ultimi anni, c'è un tasso di meretricio molto alto. Lei è d'accordo? Che la legge io dico che la legge elettorale è una legge elettorale balorda. Che favorisce queste cose qui. Che favorisce queste cose qui. Che potrebbe. Potrebbe. Allora, in questo Parlamento, le faccio una domanda molto diretta. In questo Parlamento, secondo lei, c'è chi è entrato perché ha venduto il proprio corpo? No. Perché già l'aveva fatto prima. Come già l'aveva fatto prima? Era assalto. Come era assalto? Senti, ma che me fate dire? Io dico no. E io dico che certamente questa non è una legge elettorale fantastica. Lasciamo perdere la legge elettorale, perché può succedere. Posso anche... Una cosa comunque io. Sì, facci. Un attimo, Mussolini. Allora uno deve dire quando bisogna essere assunti. Non parliamo del Parlamento. Come non parliamo del Parlamento? Allora, stiamo parlando del Parlamento. Certo che nel mondo... Ma infatti straguadagno, questo vuole dire, siccome succede nella vita, no, straguadagno no, succede nella vita, non deve, ma come facciamo tanto? No, che uno utilizzi la propria bellezza, che uno utilizzi la prestazione, ma non parla solo della prestazione o del rapporto sessuale, parla dell'uso del proprio corpo, della propria bellezza. Ma no, l'uso del proprio corpo no, uno dovrebbe andare avanti perché ha testa, cervello, abilità, non perché poi c'è una frase in napoletano che non posso dire: chi ha Atene d'oro, chi d'argento e chi ha Atene ma non serve a niente. Questo tradurre. Vabbè, abbiamo capito, c'è chi ce l'ha d'oro, c'è chi ce l'ha d'argento, c'è chi non serve a niente. Allora, questo che per dire cosa, onorevole Mussolini? Bisogna andare avanti con le proprie forze, poi le scelte, quando sono libere scelte, uno lo può fare in tutti i modi, in tutti i lavori, in tutte le condizioni. Io voglio dire una cosa a difesa di ti do subito la parola, Filippo. Allora, io però voglio difendere Stracquadani in questo modo. Secondo me non sei indifendibile. No, non è difendibilissimo. Lui ha detto una cosa forse ovvia, come diceva prima Facci. Però corretta, giusta, nel mondo della comunicazione, nel mondo della, dunque anche della politica, nel mondo di oggi, il corpo ha la sua importanza. Questo voleva dire Stracquadani. Facci. Certi corpaccioni in Parlamento, appunto, allora, ci dica quelli. Uno il corpo diventa governatore della Banca d'Italia, io ancora lo devo conoscere. Quello che c'è, governatore della Banca d'Italia. Con le donne si fa il colore, con gli uomini mai, serietà, con le donne Stracquadani anche ancora una volta ha fatto colore. Ma come è entrato in Parlamento, secondo lei? Stracquadani come è entrato in Parlamento? Ah, non ne so, chiedete la luce. Io lo so. Come è entrato, Facci? Come è entrato? Ma no, è perché si è dimesso, era candidato normale al PDL. È andato al Parlamento europeo, era uno dei primi dei non eletti, è entrato, fine. Cioè, però lui aveva una storia radicale, come no, sbaglio? certo. Sì, assolutamente. Ah, e allora? Che vuol dire, Mussolini? No, di che allora? Dico, bene, tutto torna, dice lei, tutto torna. Facci, che volevi dire? Volevo dire che in tono semiserio, ma forse più serio, ecco, che io, cioè, tutto sommato, quando in Parlamento c'erano solo donne brutte, cioè forse si stava meglio, cioè perché avevi la certezza che non passavano di lì per caso, che dei meriti dovevano averli per forza. Ora a vari livelli si è costretti a guardare, non dico con sospetto, però insomma è quello che succede, delle signore che magari sono bravissime ma che hanno l'handicap di essere magari belle, proprio come handicap, cioè delle signore che sono riuscite magari a entrare in politica non perché sono belle, ma nonostante lo siano. Cioè, perché se non è sfruttata, come sappiamo, la bellezza è ancora vista in Italia, non solo in Italia. Ma dopo tre giorni scopri che sono brave, dopo tre giorni. Un momento. Però voglio dirlo, io parlo di eccezioni, perché per il resto, mi dispiace, questa è la mia opinione, dalle circoscrizioni a Montecitorio, l'apparenza mediamente non inganna. e le donne molto belle che nelle ultime tornate elettorali sì. fanno politica e sono appunto belle, sono quasi tutte delle capre. È vero, cioè, Mussolini, anche a lei risulta? Vi dica la verità. Io dico che alcune volte se ride, mi dice, sono delle persone che sono valide, che sono stupide e che hanno fatto un sacco di carriera politica e sono rimaste delle banghe come gli uomini, e può capitare, è uno spaccato della società, ma non è detto che se tu sei una persona piacevole, bella, ecco, definiamo così, sia per forza una valga. Oltre alla legge elettorale, oltre alla legge elettorale, questo secondo me è il risultato delle quote rosa vere, fittizie, quote marketing elettorale, quote copertina, io le chiamo, quote noi sì che siamo moderni, allora mettiamo le donne in lista. Beh, il risultato è questo, cioè abbiamo visto reclutamenti di donne, femmine, amanciate durante le ultime campagne elettorali, che era una semplice variante quantitativa, non qualitativa, erano, come dire, certe volte tot donne da mettere in lista, per cui non ci sono mai state, come ci sono oggi, tante donne in politica, però secondo me l'emancipazione in politica delle donne ha fatto passi indietro. Bene, allora abbiamo stati anche tanti veloni che sono stati eletti, che sono delle vanghe. E chi sono questi veloni? Chi sono i veloni? Mussolini. E chi sono? Poi ti faccio un elenco. No, mi faccia l'elenco. Vi faccia l'elenco dei veloni. L'elenco dei veloni. Beh, non mi risulta che ci sia stato qualcuno eletto solamente per la sua. La differenza è che sono anche brutti, però. No, Belloccio, finto Belloccio. Finto Belloccio, chiedo. Forse l'onorevole Sarubbi del Partito Democratico, no, forse no. No, Sarubbi no, No, proprio lo dirò. E chi è? Ma chi sarebbe i veloni? Io voglio essere eletto come velone, comunque. Facci ci starebbe, eletto come onorevole Mussolini. Perché qualcuno non ha mai pensato a entrare Facci in Parlamento? Perché è un po' irregolare. Perché è irregolare. Come non è bello? Lei sta dicendo che Facci non è bello? Non è stupido, è una persona. Ma quello lo sapevamo, però. Ma chi se ne frega? Io non voglio essere velone, scusa, i veloni sono gli imbecilli. Cioè, perché i veloni sono stupidi, lei dice. Ma certo, lo vedi in faccia e lo capisci. Ho capito, però perché Facci, che è considerato uno bello, intelligente, non avete mai pensato a candidarlo? Ma questo mica lo candido io, Facci, perché non lo sa Berlusconi, poi sarà un candidato. Ma hanno mai chiesto? Non vuole, magari c'ha la. Hanno mai chiesto a Facci? No, questa è una mia curiosità. Hanno mai chiesto a Facci anche nel passato di candidarsi in Parlamento, Filippo? Ma no, neanche per idea. Mai. È troppo irregolare, Facci, non è controllabile, questo è il punto. È vero, Mussolini? Ma sì, la gente quando è così di diventare imbarazzante. Capito, non è che gli possono dire vota così, devi votare così. Quello dice no, io non voto così. Allora è diversa la cosa. Vabbè. Pubblicità. Pubblicità. Adesso torniamo, Filippo, torniamo. Mussolini, se vuole farci poi questa lista di veloni, bene, altrimenti la saluto. No, salutiamoci. Dai, perché non me la vuole fare la lista? Prossimamente. Bene, grazie. Ciao, pubblicità. Arrivederci. Eccoci qui, 21 minuti, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, in collegamento da casa sua o dalla redazione di Libero? Filippo Facci. No, sono andato a casa. Da casa sua, Filippo Facci. Mia. Bene, Filippo, tu da quando c'è Mentana sì. Segui più il telegiornale della 7, TG5, TG1 o nessuno dei tre? Prima cosa seguivi? Prima non guardavo il telegiornale e ora guardo quello di Mentana. Diciamo che rispecchio a pieno titolo quel, scusate la parolaccia, target, sì, che si dice costituisca appunto la grande novità. I nuovi cioè fruitori. I nuovi teleutenti. Teleutenti, sì. Che gente che prima non guardava niente e che quindi non sono stati rubati a nessun altro telegiornale. Allora, Bersani, che certo non ama Minzolini, però naturalmente istituzionalmente va al TG1 in diretta adesso. Però sentite. Noi siamo un partito di governo provvisoriamente all'opposizione e quindi abbiamo un nostro progetto per il Paese che è fatto, come ho cercato di dire a Torino, di lavoro prima di tutto e di riscossa civica, cioè di onestà, di regole, insomma di ripresa in mano di meccanismi di convivenza che si sono molto deteriorati in questa lunga stagione berlusconiana. A proposito del discorso di Torino, ho altre due domande da farle, ma gliele faccio dopo aver visto questo servizio. Sai, Filippo, io questo Bersani alla Di Pietro non lo sopporto, ti devo dire la verità. È un ruolo che non gli si addice. Un Bersani che ultimamente parla di riscossa, del modo in cui il berlusconismo ha ridotto il paese. Lo stesso Enrico Letta che parla di liberarsi di Berlusconi, che non può guardare in faccia i suoi figli se fra un anno Berlusconi non va via. Non ce li vedo a utilizzare questi termini, queste parole, no? Sì, io ho un, fa parte del gioco. Ho una preoccupante, come posso dire, un preoccupante dispiacere per il PD. Preoccupante perché quando cominci a dispiacerti per un partito per il quale magari non simpatizzi, vuol dire che è proprio messo male, che ti fa quasi compassione. Nel senso, è pur vero che non so quanto tempo, mesi, anni, che gli dicono che l'opposizione non c'è, che non combina niente, che non si fanno sentire, che non riescono a comunicare, e quindi io vedo talvolta certe sortite che di per sé magari sono criticabili, come quelle che dicevi tu, come un tentativo appunto di spiccare dal canaio che ormai è diventata la politica italiana. Ti leggo i messaggi che sono arrivati, sì, dopo la nostra performance prima con Alessandra Mussolini sulla bellezza e la politica, messaggi, sì, riferiti direttamente a Filippo Facci. Magari ne parliamo tra un attimo, dopo i titoli della 7. Bene, se Berlusconi va avanti a governare serve al paese. Da Napolitano elogi all'ultima svolta del Premier, ma sarcasmo sulle polemiche sgarbate contro il Colle, accusato di frenare la corsa verso il voto. Il gruppo di responsabilità nazionale non decolla, anzi perde pezzi. Tra smentite e retromarce non tornano più i conti dei 20 voti nuovi per il governo promessi alla Camera del Repubblicano Nucara. Nessun incidente, hanno sparato per uccidere. Il comandante del peschereccio attaccato in acque libiche replica al ministro dell'interno Maroni. La Farnesina dice pescavano illegalmente, ma la CEI accusa inerte il governo italiano. Continua a far discutere la presa di posizione del deputato PDL Stracquadanio, secondo cui chi ha usato il proprio corpo per entrare in Parlamento non dovrebbe dimettersi. Le donne di tutti i partiti lo attaccano e lui... L'indagine della Procura di Roma sulla vendita della casa di Monte Carlo ereditata da Enne, ascoltato per due ore il senatore Fignano Pontone che trattò la cessione, ho solo eseguito gli ordini del partito di cui ero tesoriere. Libero subito l'imprenditore di Nola rapito domenica sera, sarebbe stato lui stesso a chiamare i carabinieri che lo hanno trovato con una catena al collo, ma intorno alla storia restano molti misteri, forse era un avvertimento. L'Unione Europea boccia le scelte di Sarkozy in relazione all'espulsione dei Rom, chiesta l'apertura di una procedura di infrazione per violazione dei diritti, ma il governo francese replica attuando altri 200 allontanamenti. Però devo dire, Filippo, il fatto che tutte le donne di centrodestra e di centrosinistra attacchino Stracquadanio me lo fa automaticamente difendere. Perché poi, quando ha spiegato le cose qui ieri sera alla Zanzara, beh, insomma, erano un po' diverse da come sono state presentate poi dalle agenzie. Sì, ma infatti è quello che cercavo di dire prima. La frase in sé è una frase che dice una cosa classicamente ovvia, ma che tipicamente in Italia molti non sono disposti comunque ad accettare come frase che ormai si possa dire scontatamente. Perché alla fine cosa ha detto? Ha detto che nella politica si usa il corpo. Come uno arriva in Parlamento, se non viola la legge sono affari suoi, ha detto così. Cioè, poi se vogliono fare una scaletta delle cose, cioè, poi che cosa vuol dire? Non è che abbia detto proprio prostituzione, non credo almeno. No, non l'ha detto. Cioè, non è che era la domanda di Klaus Davi, sai come sono le interviste di Klaus Davi? Sì, no? Sì, appunto, e anche dei criteri con cui appunto vengono ripresi, sì, ecco, le frasi. Però insomma, cosa ha detto? Cioè, non è che abbia prospettato che, non so, un giorno un capo partito sia andato sul viale, abbia pagato una prostituta e l'abbia fatta diventare parlamentare, ma che, ripeto, gli ingredienti che fanno sì che una persona riesca nella vita, oltre a riempire i libri di come fare, come diventare, come riuscire nella vita, eccetera eccetera, sono probabilmente fatti più tipicamente nelle donne, per tutta una serie di ragioni, anche di sostanza apparente, di carne, di compiacenza, di carne e di, insomma, tutta una serie di cose che senza e lo sottolineo più volte, senza per forza tirare in ballo il sesso diretto, possono far sì, per esempio, che nell'arco di 2 anni una persona possa passare da essere, una valletta al programma della RAI Piazza Grande a essere ministro delle pari opportunità. Mi spiego? Che cosa il riferimento è diretto, cioè non è il riferimento diretto, ma che non ha niente a che vedere con fattori sessuali diretti, certo. O di prostituzione, ma semplicemente che prendono palesemente atto che la questione dell'apparenza o appariscenza fisica non sono dei fattori estranei, dopodiché ognuno si rigioca come vuole lui. C'è il servizio su Straguadagno alla 7, sentiamo, c'è molta politica nel telegiornale della 7. I problemi politici sono emersi. Sul caso che ormai anima il dibattito politico in Italia, domani il governo riferirà in aula, interviene anche il ministro degli esteri sulla stessa linea già tracciata. No, è la questione di Gheddafi, su cui torneremo tra poco. E siamo qui, 20:11, in collegamento da casa sua a Milano, Filippo Facci. Filippo, stanno impazzando i messaggi sulla vicenda della avvenenza o meno di Filippo Facci, che abbiamo scatenato prima. Però vabbè, stavo scherzando, sono brutto e stupido. E abbiamo un collegamento molto speciale da Milano e non da casa sua a Roma, casa famosissima, Lori del Santo. Buonasera. Ciao. Sì. Come sta? Bene, grazie. Cara del Santo, ci diamo del tu naturalmente, no? Che sì. Dici? Ci diamo del tu o no? Va bene, io poi mischio, ti devo dire. Mischio, anch'io mischio. Perché sento, in certi momenti mi sento il tu perfetto, invece in certi momenti non posso vivere senza lei, è come se fosse uno sfregio, capito? Non lo so, non ce la faccio, quindi mi lascio andare come viene. Certo, ma conosce il signor Facci, Filippo Facci? Sinceramente di persona no. Di vista. Io non conosco lei, quindi. Non mi conoscete di persona. Però vagamente, anche di nome è un po' vagamente, devo dire, non saprei descriverlo non in maniera Non è grave. Non è grave, meno male, perché io devo sapere tutto, sai, ci tengo. No, lo so che lei si informa molto, legge molto, no? Ma diciamo che leggo anche se poi mi entra e mi esce, perché ho capito che il mio cervello ha un limite, è come un computer che ha una memoria, capisci, un po', diciamo, non troppo allargata di megabytes. Allora ogni tanto per mettere cose nuove devo buttare fuori le altre, quindi diciamo che ho per una settimana una notizia la tengo e poi la espello. Lo sai, Filippo, che è anche un mio problema questo qua, non è solo della signora del Santo. Che il tuo cervello ha un limite. No, il mio cervello ha moltissimi limiti, no. Però mentre io non riesco, ma non significa essere limitati, no. Significa dare il massimo ma in un periodo, diciamo, limitato. Le cose restano e poi escono. A me sì, esatto. Questo tempo è molto breve in cui restano. C'è il problema delle cose che entrano e poi escono. Stavamo Ma sai, io penso che sia giusto che sia così. Se ci pensi, una volta quando si viveva qui i cavalli e le carrozze, che notizie c'erano? Dovevano aspettare mesi che passasse, capisci, la posta del re. Questo è vero, però siamo andati avanti, signora Del Santo. Per cui adesso ci sono una serie di informazioni talmente elevate, dallo sport a tutto, e bisogna sapere tutto per essere minimamente sociali. Che uno impazzisce, lei dice. Che no? Veramente pensa alla cosa, bisogna, il nostro cervello veramente si è espanso, e anche l'età, diciamo che adesso viviamo più a lungo, ma anche il nostro cervello ha subito un incredibile progresso. Beh sì, ma è anche più complicato tenere dentro tutte le informazioni che ci arrivano. Senta, ma lei sa niente della vendita della casa di Scajola? Lei abita 3-4 piani sopra, ma ha detto, no? Della carità, com'è come la no? Cosa? Certo che lo sa, ha fatto anche un'intervista. A me dispiace, no, devo della dire... casa lo sa, della casa lo sa, della vendita, sì. Della vendita, la messa in vendita della casa. Mi dispiace, sì, ho sentito questa notizia, però mi dispiace perché lui comunque è una persona cordiale e nel condominio tutti quelli che fanno le battaglie non mi sono mai piaciuti, perché secondo me bisogna trovare sempre degli accordi per andare insieme e non diciamo farsi causa continuamente, bisogna essere persone con un po'. Certo, lui ma c'è un cartello, c'è un cartello di vendita lì a casa Scajola. Guarda, ci vado domani a Roma e ti posso, se ci risentiamo ti dico tutto, mi informo. No, come no? È interessante questo, perché magari io penso che la potrebbe comprare lei, no? La potrebbe comprare lei o no, signora del Santo? No, perché veramente, devo essere sincera. Porta sfiga a quella casa, dice. No, assolutamente. È che veramente essere in quella posizione, vedere poco, come quella casa, la vista è molto limitata, non vale la pena a pagarla così per vedere un albero, perché lì il Colosseo, insomma, si vede poco. Proprio sforzare per vederlo, è quasi al piano terra, piano rialzato. Hai capito, Filippo? Noi non abbiamo capito niente. La casa di Scaiola è una casa del cavolo. Cioè. No, è una casa, teoricamente è una posizione bella, però essendo un piano rialzato e avendo due palazzi di fronte, vedi il Colosseo attraverso una pianta che si sfoltiscono, lo vedi? E quindi vedi uno spicchio, no? Questa vista pazzesca, non so come dire. Senta, certo, ma scendi fuori dal palazzo e c'è il Colosseo lì. Vabbè, ma però non è... lei non può fare il paragone con casa sua, che sappiamo è una casa meravigliosa, capisci? All'ultimo piano col terrazzo. Ti dà la vista lì, insomma, è un po' sacrificata la vista. Ma infatti è una casa un po' però, così. Però insomma, certo, meglio. Poi l'accetterei solo se me la regalasse. Tante cose. Che è facile, dice. Lui l'accetterebbe solo se gli regalassero. Pare che 900.000 euro Scaiola ancora non sa da dove siano venuti. Senta, dopo il traffico, signora del Santo, le voglio chiedere una cosa. Non a proposito della casa, c'è una questione che è stata sollevata sul corpo e la politica. Cioè, secondo un deputato della Repubblica che si chiama Giorgio Sclelio Stracquadanio, intervenuto anche ieri sera alla Zanzara, è legittimo usare il corpo in politica. Cioè, ci si può anche vendere, tra virgolette, o comunque si può usare il corpo per fare politica. È legittimo, succede, non c'è problema, fa parte della vita. Bene, 20:18, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, in collegamento da Milano, Lori del Santo e Filippo Facci, che però non sono insieme ma sono in due posti diversi, ognuno a casa loro. Filippo Facci a casa sua, Lori del Santo pure a casa sua. Signora del Santo, dove si trova a casa sua a Milano? Così la zona? La zona è, diciamo, Piazza Risorgimento, dove c'è Dolce Gabbana, il bar, tanto per... Beh, io conosco più Piazza Risorgimento, il bar di Dolce Gabbana non ci so, credo di non esserci mai stato. Comunque, Piazza Risorgimento dov'è esattamente? Il quartiere Filippo, tu sei, diciamo, più... a 13 minuti di cammino da Piazza San Babila, camminando normale. Vicino a Piazza Tricolore. Quindi abbastanza... vicino a Piazza Tricolore. Sì, esatto, Piazza Tricolore. Ah, sì, sì, esatto, esatto. E invece Facci dove si trova? In che zona, se si può dire? Sono nella gloriosa Lambrate. A Lambrate. Un po' in periferia per lei, signora del Santo, un po' troppo in periferia. Beh, sì, io dove va a scuola mio figlio, vedo sempre Lambrate, non sono mai andata, ma immagino che, non so. Non la frequenta la periferia milanese? No, ma a parte che tutti quelli che abitano a Milano, nessuno dice abito in periferia, tutti dicono anche a mezz'ora dice abito in centro. Questo è vero. Non so perché, proprio qui non esiste, non viene considerato il termine. Facci dice che abita gloriosamente a Lambrate. Sì, è un bellissimo quartiere. Bellissimo, anche io penso che sia meglio abitare un po' più lontani dal centro. Effettivamente sì, la vicinanza col centro a Milano è... appartiene a molte periferie. Hai ragione, perché a Milano non si vede il cielo, non c'è il cielo. Vabbè, adesso non esageriamo. Io abito a Milano. In città io vedo il cielo. Lei è milanese, lei è tifosa di Milano, Ma qui il cielo non c'è, è come se le case lo uccidessero, e per vederlo bisogna appunto uscire un po' dopo le nate, da quelle parti. In effetti bisogna... Ma scusi del Santo, lei è avendo questa possibilità, una casa a Milano in un bel posto, ma è anche a Roma, di fronte al Colosseo, lei è tifosa di Roma o tifosa di Milano? La classica diatriba così. Ma guarda, Roma per me è stato il mio primo amore, mi sono innamorata perché il cinema, e poi ho iniziato da lì, diciamo, sono sbocciata. Però Milano? Poi, però Milano, la televisione e il drive-in, per quello che mi sono trasferita, eccetera. Poi la casa di Roma, diciamo, più un bijou e più un pied à terre, non è un vero appartamento, sai, hai più di una camera da letto, giri lì, è un po' un... E invece Milano è una casa vera e propria. Milano, come c'hai più stanze da letto, allora puoi avere più figli, ti puoi anche allargare un attimo, un ospite. Quanto è grande la casa di Milano, così per curiosità? È abbastanza, diciamo 200? 200, sì, anche un po' di più. È però, di più. Di più è 200, sì. 250, quant'è? Sì, penso 200. Di sì. Vabbè. E quindi è più caro casa, Facci. No? Però non c'è la vista, no. Quindi diciamo che nella vita non si può avere tutto. Ah, no, non c'è l'altra, cioè, allora bisogna cercare un po' di qua e di là, non bisogna stare in un posto e fissarsi. Senta, ma lei... lo utilizzerebbe il suo corpo per fare politica? Ce le sembra una follia il fatto che qualcuno magari usa la sua bellezza? No, non è una follia, secondo me, purtroppo, non voglio dire una cosa, ma nella vita bisogna dare per avere, avere per dare, insomma, e su questo... anche avere per dare, perché se non si ha niente non si può dare. e quindi diciamo che sentiamo, scusi un attimo, sentiamo il servizio della 7 su questa cosa qua. E ancora lui, Giorgio Clelio, Straguadagno, esponente del PDL, non nuovo alle uscite clamorose. Ieri, come già sapete, si è superato. È assolutamente legittimo usare il proprio corpo per fare carriera politica. Apriti cielo, donne e uomini che siedono in Parlamento replicano duramente anche dallo stesso schieramento della maggioranza. Pensare anche solo per un secondo che ci sia qualcuno che siede in Parlamento perché ha venduto il proprio corpo mi inorridisce e non voglio commentare perché non troverei le parole per condannare questo tipo di dichiarazione. La finiana Angela Napoli nei giorni scorsi aveva fatto infuriare le parlamentari del PDL per aver ipotizzato un utilizzo da parte di alcune deputate del proprio corpo per ottenere una candidatura. Anche in quel caso, scoppiato per un'intervista al massmediologo Klaus Davi, lo stesso che ieri ha raccolto le parole di Straguadagno, si scatenò una polemica rovente e la Napoli fu chiamata a correggersi. Oggi un'altra deputata finiana, Suad Sbai, certo, commenta così. Le dichiarazioni del collega Straguadagno sono dichiarazioni aberranti, sono dichiarazioni, spero, in una smentita al più presto o nelle scuse. Da destra a sinistra un coro unanime di che schifezza, parole usate dalla capogruppo al Senato Angela Finocchiaro. Una domanda certo mi sorge spontanea: quali sono le qualità che hanno portato Straguadagno in Parlamento? Questo me lo domando e forse se lo domandano tanti italiani. Va bene, allora, mi sembra che lei non si scandalizza molto. Ah, Straguadagno in diretta, un attimo, scusa, del Santo, diciamo che c'è il fascino del di ciò che è proibito, cioè di ciò che non si dovrebbe fare. E più questi dicono no, non si può, Dio che scandalo, e più si fa, perché ciò che è proibito attira di più, ti fa usare la mente meglio, ti eccita il corpo. Quindi io non escludo invece la possibilità che possano avvenire dei casi di questo tipo, proprio perché e non li condanna, mi sembra, non li condanna. Di andare oltre, ma ciò non toglie che invece queste persone dovrebbero porsi questo problema. Ma poi queste persone che vengono elette, che siedono in poltrone, sono brave. Allora, questo, parliamo di questo. Chi se ne frega con chi sono andrà? L'importante è che siano brave a ricoprire il ruolo che gli è stato assegnato. Se non sono brave, vengano cacciate. Ma non, cosa c'entra cosa hanno fatto? Io dico che un attimo solo, Del Santo, però queste le cose che dice Lori Del Santo mi sembrano più intelligenti di tante opinioni politiche che abbiamo ascoltato anche ieri su questa vicenda, lo dico così, o no? Ma insomma, come no. Si dice, ma sì, ma cioè, voglio dire, che cosa stiamo scoprendo? Cioè, io capisco che si vede sul campo. Che la pruderia di parlare di queste cose da parte di tutti, che si sono subito scaraventati. Ecco, Mentana, guarda Mentana. Ora c'è Straguadagno in studio. Oh, alza anche tu il televisore, sentiamo non un attimo. Cerca che dei pretesti per parlare dell'argomento che ti ma è così, fa la politica, è fatta anche di provocazione. Sentiamo Straguadagno come risponde a Mentana. Chi lascia il PDL, c'è chi forse affluisce nella maggioranza. Per adesso nessuno è approdato al PDL. Però è auspicabile da parte vostra, è auspicato da parte vostra, quello si vede, uno lo conclama, lo dice, è ovvio che invece non c'è scritto mi sono dato o mi sono data per entrare in Parlamento. Ma come facciamo a stabilirlo, se anche se uno si è concesso che lo ha fatto per quello e in quel modo ha ottenuto? Supponiamo che l'abbia fatto io, lei è in grado di dire che avrei ottenuto per quello, o lei conosce dei miei meriti politici? No. Lei ricorderà qualcosa che abbiamo fatto nel 95, forse io ero portavoce del comitato per il referendum a difesa delle TV private, e tra queste c'era anche l'allora Telemonte Carlo e c'era Canale 5, di cui lei era il direttore. È stata una battaglia importante, credo, l'ultimo referendum che ha avuto i voti. No, ma qui non si mette in discussione la capacità politica delle persone. Signor Paola Concia, che mi conosce benissimo, ha detto ci dica quali sono i meriti, e mi tocca dirli, non mi piace farmi, come dire... No, però Straguadagno, lei è troppo intelligente per non sapere che si stava parlando di un'altra cosa. Ah. Si lancia... E chi sarebbe? Si lancia di chi stavamo parlando? Si lancia nel mucchio un'accusa che ovviamente viene vissuta dalle donne. Lei ha intervistato Angela Napoli? No. È lei che ha lanciato nel mucchio l'accusa. Ha detto che ci siano in questo Parlamento deputate che si sono prostituite. Ha detto anche questo. Allora, questa è un'infamia. E non uso a caso la parola infamia, perché l'ho già sentita qualche giorno fa a Mirabello. La parola infamia. Allora, vabbè, facci, però a me pare che ci sia ogni volta che si solleva, come giustamente dice Lori del Santo, questa questione del sesso, un po' di sessuofobia. Per esempio, l'altro giorno è scoppiata una polemica ad opera di una scrittrice che si chiama Murge, di Gad Lerner, sul fatto che Bruno Vespa, durante la premiazione di un premio importante letterario, premio Strega, abbia detto la telecamera può inquadrare il décolleté di Silvia Vallone e apriti cielo, il vecchio bavoso, eccetera eccetera, cose eccessive, no? Facci, o no? O sbaglio? Senta, posso dare veramente il contributo che reputo opportuno alla querella di cui ha appena parlato, che riguarda Bruno Vespa e la scrittrice, sì, il suo décolleté, sì. Cioè, quello che secondo me dovrebbe essere l'unico serio segno di attenzione, non dico niente, niente, non me ne frega niente, niente, niente, niente. Ho capito, però. Rifiuto la domanda, non voglio dibattere di queste cose. Cioè, un conto è se facciamo un discorso più ampio, perché che riguarda Giorgio Stracquadagno e un paese che sta cambiando. No, ma io non ti sto chiedendo un parere, guarda che rispondendo alla domanda, rispondendo al fatto che è una polemica inutile, tu hai risposto, è come se avessi risposto dicendo che chi ha sollevato questa polemica sbaglia a sollevarla perché non c'è niente di cui parlare. Sì, ma nel momento in cui noi ci prestiamo a commentarla, come dire, se una polemica è cretina, richiama i cretini a... Ma ci occupiamo di tante cose cretine nella vita, ogni tanto ci si occupa anche di cose cretine. Lasciami l'illusione di poter scegliere. Del Santo, è una questione ma cretina? No, guarda, io ti posso dire che comunque un uomo quando fa un complimento a una donna dovrebbe essere sempre comunque apprezzato, dovrebbe essere una bella cosa. Meno ecco, male. Poi sta di fatto parole che io, sante da Lori io, del Santo. Quella signora, io mi sarei messa a reggiseno per fare un push up e renderlo ancora più evidente il suo seno, sembrava un po' cadente, ecco, era quale bello signora? Ma un po' cadente. La signora però Vallone, dire... la signora... Ah, scusa. La signora sì, Vallone. Doveva mettersi un push-up, io avrei consigliato. Pensavo però perché non mettersi una scollatura? Non è che, voglio dire, se uno ha una scollatura non è intelligente. Comunque bisogna apprezzare l'uomo galante che ti fa i complimenti. Queste donne che non si possono neanche più era il campiello, non lo strega. Era il campiello, mi segnalano che era il campiello. Che diceva? Ma non ha importanza cos'è. È no, la bellezza, no, certo. E il fascino va comunque bene ovunque, sia nella letteratura che al campiello che al festival. Cioè, sempre che sia fatto con galanteria, ovviamente. Ma sì, per invitare mettere... la telecamera a inquadrare, la telecamera inquadri il décolleté, non è che ha detto inquadrami la tetta della Vallone, no? appunto, io guarda, Vespa è uno che le donne le vede e non le vede, ti posso dire, perché sono stata... Ecco, io infatti questo ho detto, cioè, non mi sembra proprio uno attento a queste cose ma femminili. Assolutamente, ecco, magari lì era già quasi addormentato e ha visto sta cosa e si è un attimo scosso, hai capito? Vabbè, borsa, torniamo subito dopo la borsa, 800 24 00 24. Facci, ci sei oppure hai abbandonato? Devo assolutamente salutare. Ma che devi fare? Devi finire di scrivere queste cose qua? No, io sto già scrivendo mentre parlo con voi, lo so che non è bello dirlo, ma mi continuano a chiamare perché gli mandi l'articolo. Sì. Vabbè, allora sentati un attimo, poi magari torni. Eccoci, 20:35, 800 24 00 24, in questo caravanserraglio della Zanzara, oltre a Lori del Santo, che qualcuno vuole for premier, in diretta da casa sua a Milano, Piazza Risorgimento. Lori, ci sei? Sì, eccomi. Fantastico. C'è anche un personaggio che ci è venuto a trovare in questo luogo di perdizione che è la Zanzara, un personaggio, un giornalista di altissimo livello e che però ha un suo sense of humor particolare, il corrispondente del Sole 24 da New York, Mario Platero. Are you lonesome tonight? Are you stranger tonight? Will you get me? I'm falling apart. Ti ho visto un po' solo, scusa Giuseppe, ma e quindi hai fatto tonight, benissimo. Quindi siamo qua insieme. Eccoci. Hai fatto benissimo. Lori, spara. Conosci il signor Platero? No, neanche lui. Ma io sono un po' giù con i giornalisti, dovrei rifarmi perché effettivamente sono l'intelligenza, vanno invece l'uomo intelligente, le donne belle dicono "Oddio, io voglio l'uomo intelligente", quindi ce ne sono a te tanti. Piacciono gli uomini, per esempio, che hanno le iniziali sulla camicia? Mario Platero, che ha una camicia a righine bianca e con le righine azzurre, brava, e la camicia è la polsini una polsini bianchi e il colletto bianco. Polsini, no, polsini uguali alla camicia con i gemelli, però ha una cravatta alla Fini, una cravatta rosa alla Gianfranco Fini, abbastanza orribile, devo dire. La trovi orribile anche tu, la cravatta rosa? Guarda, l'importante è che la camicia non sia tipo quadrato, enorme, secondo me deve essere un po' sfiancata, in ogni caso, a meno che lui non abbia un po' di pancia, allora nascondere. Diciamo, un a me po' la nasconde. Le cose un po' fitting, no? Che diano un po', che snelliscano. Ma allora, scusate, no, qua sì. devo intervenire. Allora, intanto, Lori, ti colgo in fallo subito. Mi dispiace ovviamente che tu non ti ricordi di me, ma noi ormai molti anni fa ci siamo conosciuti con Lupo. Lupo Rattazzi. Vedi subito. Ho capito, ha notato Lupo. Scusa, ma lì eravamo giovani e belli, squinternati. Ecco, e quindi avevo un po' meno panza. E invece Giuseppe naturalmente conferma con questa sua divisa di jeans, questa giacchetta, che è sempre quella, non so, l'ho incontrato in aereo, era così con questo, non so se se li cambia, se sono tutti uguali, capisci? Insomma, conferma che è di moda, perché in realtà questa cravatta, Lori, scusa, ma te la devo descrivere, perché è una cravatta meravigliosa, rosa, e lui non lo sa questo, ma è dipinta a mano. Comprata in un negozio di Madrid, che è l'unico negozio che vende questo tipo di cravatte. L'uomo di mondo, capito? E sono dei grappoli d'uva. Molto carini. Ma originale ci sta. Ma che originale, esatto, una cosa. Esatto. A parte che la cravatta rosa sulla camicia a righine bianca e azzurra. Dovresti venire qui, Lori, è meraviglioso. Ma verrà prima o poi verrà. Poi c'ha queste iniziali MCP, che è Mario Calvo Pratero. Capisci che siamo in presenza. Quello fa aristocratico. È molto aristocratico. Ecco, molto scusa, allora di nuovo, questa è la versione buona. E i gemelli, invece i gemelli? No, aspetta, adesso arriviamo ai gemelli, ma domanda per tutti e due. MCP, hai detto giustamente, sono le mie iniziali. Che sembra la sigla di una ditta di lavorazione del legno, MCM. MCP. MCP che means what? Parliamo un po' in inglese, visto che poi è una traduzione. No, io sono ignorante, lo sai. Ma dai, MCP. Diciamo, tu parli bene inglese, Lori? Lori, tu che sei una donna di mondo, MCP, che cosa vuol dire? Ma non lo sa, ma perché la devi mettere in difficoltà? MCP può essere qualsiasi cosa. In inglese, diciamo in inglese, non in italiano. MCP, e che può essere qualsiasi sigla. È famosissimo, MCP. E no, tu poi, perché tu un po' anche lo rappresenti questo simbolo, quindi ti aiuto. MCP, MCP, pensa police, anche un po' a te, Metropolitan Police, no, una cosa del tu insomma sei così un po' playboy, un uomo mi ha dato del playboy, allora, capito? È una cosa MCP e cos'è MCP? Canta male qualcosa. Chauvinist pig. Che, oh no? My god, è vero o no, Lori? La conoscevi, no? Cos'è male chauvinist pig? Ecco, era l'inno delle femministe, male chauvinist pig, l'uomo, il maschio sciovinista e maiale. Che ti rappresenta? Che però adesso è molto no, ricercato. Io dicevo che tu dovresti. No, io non c'entro l'uomo nulla. Diciamo il maschio. Hai capito? L'uomo manco ti guarda. È meglio uno che ti vuole un po', diciamo, maldestro, un po', però che ti vuole fortemente. Sai che hanno invitato a 8:30 nella seconda giornata del ritorno di Lilli Gruber Oscar Luigi Scalfaro? Non ci posso credere. Sentiamo. Stamattina Napolitano ha sentito il bisogno. Per carità, grande rispetto. Non sempre le elezioni sono la via d'uscita a un'instabilità politica, una situazione instabile. Vorrei fare una sottolineatura, e non è un antico rapporto di amicizia. E ci siamo già addormentati. 20:40, 800 24 00 24. Com'è che faceva la canzone prima? Scusa, sei bravissimo. Beh, intanto sai chi era il grande che la interpretava, ovviamente. Vabbè, tu facevi l'animatore nei villaggi prima di diventare corrispondente del Sole 24 Ore. Sì, anche. Lo sapevi questa cosa, Lori? Qui abbiamo una persona che è diventata corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, ma faceva ab inizio. Per pagarmi così l'università. L'animatore nei villaggi. Are you, com'è? Are you lonesome tonight? Ma che bello! Vai. Veramente? No, basta. No, che basta. Così, un'altra strofa, così. Allora, questa invece la dedichiamo a Lori? Sì. Grazie. Old man say never fall in love, but I can't help falling in love with you. Beh, bravissimo. Applaudiamo Lori, applaudiamo Mario Calvo Pratero, vorrei sottolineare, corrispondente del Sole 24 ore d'America. Questo, cioè, non è che saper cantare bene e farlo significa che uno non può fare bene il giornalista, ma siamo pazzi. Cioè, Mario Pratero, io lo conosco da tempo, non è solamente, ripeto, uno che si occupa di cose americane, di finanza, di politica, ma è un grande showman, showman mancato, devo dire, mancato. Forse guadagnerebbe molti più soldi di quelli che già non guadagna negli Stati Uniti. Potrebbe lavorare con Fiorello. Sono esageriamo, insomma, con Fiorello, con quella cravatta rosa, no. Con quella mettici una buona parola, Rory, vai. Allora, qualche ascoltatore, però io questa storia della casa di... Tu sai che la signora del Santo abita nell'attico e al primo piano c'è la casa di Scajola, la famosissima casa di Scajola. Piano piazzato, no? Non lo sapeva. Ma non è che pochi minuti fa, è una cosa storica questa qua, che fa parte ormai della storia politica italiana, dunque, ma lui si occupa di cose americane. Quando è l'ultima volta che lei è stata in America, signora del Santo? Io sono tornata domenica. Dall'America, vedi? Sì, sono stata a Los Angeles. Los Angeles. Sì. Però guarda, Los Angeles è una città stranissima, veramente. Non sembra neanche una città, sembra un villaggio che è un po' diciamo sperso e non è una città vera. L'unica città che veramente non è una città, non l'ho mai provata come città. Beh, certamente per chi vive a New York, per chi frequenta New York, Los Angeles è uno spaesamento totale. Sì, no? non si sa dove andare, non c'è un meeting point, non c'è una piazza, non c'è una chiesa, non c'è nulla. Vediamo l'esperto qui, Los Angeles. Quante volte ci vai tu a Los Angeles? Los Angeles, ci vado diciamo un paio di volte all'anno, se riesco, perché è importante andare nella West Coast. Però Los Angeles è fatta di mille centri, è quello in effetti il problema. E sono tutti microscopici, come stare in un posto piccolissimo. Poi se non è la macchina è un disastro, mi hanno detto che i taxi non esistono. No, ci sono anche i taxi. Insomma, c'è downtown Los Angeles dove ci sono i grattacieli, dove ci sono gli uffici, dove c'è il museo, dove c'è il MoCA, il Museum of Contemporary Art, che è bellissimo tra l'altro. Poi c'è Hollywood, che è una cittadina separata, che sta da un'altra parte, c'è Beverly Hills, Santa Monica, che sta sull'oceano, insomma, sono tanti piccoli centri e è un po' così, c'è la vita di quartiere, per cui ci sono così ristorantini dove tu vai e c'è molta vita. Degli attori famosi, bisogna avere le connection, essere invitati. E tu dove sei stata? Tu dove sei stata? In una villa di un attore famoso? Ma io andavo sempre al Four Seasons perché arrivavano tutti lì, ho visti tutti, da Ben Affleck a Harrison Ford, tutti mettili al bar e prima o dopo li becchi. So che poi devi avere, se vuoi conoscere, avere il coraggio di, ma io non ce l'ho mai avuto, però li ho visti tutti, cioè, quindi se non ti invitano ti spiazzi in un Five Stars and... Five Stars Hotel dove certo. insomma. Così per far capire alla gente. Andiamo. Cioè, io non abitavo al Five Stars, ma andavo al bar del Five Stars. E dove abitavi? Scusa, non per farmi gli affari tuoi. Molto meno, perché sai quando costa 800 al giorno, 900, fai presto, fa delle cifre. Certo, ma tu dove abitavi? Non per farmi gli affari tuoi, se non stavi in un Five Stars. No, io stavo in un non posso dirlo perché guarda, io amo il 5 Stelle e vado solo lì. Però ultimamente quando questi due figli crescono sono dissanguata, sono passata al 5 Stelle, non vorrei dire una cosa, al 3 Stelle, ma solo a Los Angeles. Ah, solo a Los Angeles, Lori del Santo va in un 3 Stelle. Sì, non in un l'unica 5 volta in vita mia, veramente, perché lo devo dire, perché la mia ricerca è del lusso, io voglio essere ricca solo per stare in un hotel 5 Stelle quando viaggio. Questo lo sappiamo. Viaggio in economica, però l'hotel deve essere, perché mi devo stare bene, mi devo sentire, capisci, mi dà energia, se no mi deprimo. Però lì a Los Angeles, come c'è un bel tempo, me ne frego, ho detto vabbè. Uso questi soldi per mangiare e per fare e per mandare magari mio figlio all'università la più cara che c'è, per imparare a giocare a tennis, ecco, diciamo investito i soldi su di lui dell'hotel. Lori, vai anche al Beverly Hills Hotel? Certo, quello rosa dove c'è il breakfast, il power breakfast, no? Però visto che è rimasto come una volta, io ci sono andata non so 20 anni fa, identico ancora. Ma qui è un confronto tra giganti, noi dobbiamo dare la linea al traffico e dopo abbiamo gli ascoltatori che abbiamo ancora una volta colpevolmente trascurato questa sera, che ci fanno sprofondare dal Beverly Hills Hotel com'è alle questioni di Adro, caro Mario. Adro è il simbolo della Lega, tu non l'hai seguita queste come cose? Come no? La scuola l'hai seguita? Ma certo, tutto dobbiamo seguire. Lei l'ha seguita questa vicenda, cara signora del Santo? Sì, vagamente. Adro, però, no? quel sindaco della Lega che ha messo i simboli nelle scuole. Sì, vabbè, traffico. Eccoci qui, 20:48, 800 24 00 24. Lo sa, signora Del Santo, che gli ascoltatori qui la vogliono premier, Lori Del Santo subito in Parlamento, la numero uno, ciao. Guarda, io penso che... Ma lei si candiderebbe? Lei si candiderebbe? Può fare il premier, perché no? Perché bisogna cercare di capire il mondo, vedere da che parte va, ed essere avanzarlo leggermente, per essere premier, per essere qualcuno che... Ma lei la farebbe, farebbe politica? Guarda, solo se veramente ci fosse la possibilità di farlo. Purtroppo invece bisogna scendere a compromessi quando sei in quella posizione. Quello dice sicuro. Berlusconi, per governare bisognerebbe essere uno solo, perché altrimenti quando si deve dividere la torta in 100 persone non si prendono decisioni. A lei piace Berlusconi? Avanti, bisogna poter prendere delle decisioni. A lei Berlusconi piace? Certo, perché capisco la sua difficoltà nel cercare di mettere d'accordo tutti, è difficilissimo. Per governare bisogna avere la possibilità di essere certi, di fare una legge e di cercare veramente di cambiare le cose. Lei lo sa però che anche negli Stati Uniti, dove vive il signor Platero, che è qui accanto a me, certo il presidente ha molti poteri, eccetera, però poi c'è il Parlamento, il bilanciamento dei poteri. Ma un senatore muore e è disastro. Certo. Muore uno e va in tilt l'America, incredibile. Questo non esageriamo, in tilt l'America per la morte di un senatore. Quando è morto quel Kennedy, ha lasciato la poltrona vuota, che macello. Ma quale Kennedy, dice lei? Ah, il Kennedy l'ultimo che è morto? Sì, quello lì importante. Sì. Va bene, Sergio, provincia di Bergamo, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Intervengo per la disputa tra il sindaco di Adro e Telese, quella avvenuta ieri. Sì. Due cose. La prima è sul contenuto, si può essere... Anzi, sono d'accordo con Telese, tanto più che se va a guardare sul sito internet di Adro, il Sole delle Alpi non appare nel gonfalone, non appare nello stemma, non appare nei monumenti, non appare nelle sue... Dunque è un simbolo di partito messo in una scuola dove vanno i bambini, e questo non va fatto. Penso proprio di sì. Dall'altra parte è ingiustificabile la maleducazione di ieri di Telese. Io vorrei fare riascoltare, però la maleducazione. Io difendo invece il modo di parlare di Telese in questa trasmissione. Ma non è politicamente corretto. E appunto, no, perché non è politico. Appunto, perché non è politicamente corretto, che io penso che in questa trasmissione, che è una cosa un po' diversa dalle altre, si possa utilizzare una certa terminologia, si possono utilizzare certe frasi, per esempio queste. Questo è il Sole delle Alpi. No, è il simbolo della Lega, Lancini, è anche il simbolo della Lega, è il Sole delle Alpi, è una tradizione storica, però è diventato il simbolo della Lega. Ecco, qui è stato usato come tradizione storica e non come simbolo della Lega. Il simbolo della Lega è l'Alberto Bagistano. Adesso facciamo i banchi dei bambini elementari con la svastica, con la falce e il martello, ma diciamo che la svastica è stata usata come simbolo neopagano o greco e che la falce e il martello come reliquia del Novecento. Ma cerchi di essere, lei ha fatto un rito griffato della Lega, stia buono e non racconti cazzate. Oltre a cazzate ha detto stronzate, ha detto anche testa di C, adesso non dico altro, testa di cazzo, questo ha utilizzato nei confronti del sindaco. Io ripeto, finché c'è il confronto, eccetera, eccetera, anche in maniera cruda certe cose si possono esprimere. Nelle radio americane, Mario, succede di tutto, diciamo la verità. No, Rush Limbaugh. Radio e televisioni ormai. Sì. Parolacce anche? Beh, no, parolacce meno, devo dire. Infatti, televisione, come, no, radio, come, sì, però. Come hai visto, ho alzato il sopracciglio quando ho sentito quello che hai detto. No, ero concentrato su un'altra cosa, hai alzato un po' il sopracciglio. Ho alzato un po', perché insomma, io non mi permetterei mai. Insomma, the four letter word in America non si dice. No, cioè the four letter word. Cioè la lettera, adesso non puoi, già arrossisco, quella parola a quattro lettere. Ah, ho capito. Capito? No, diciamo, la parola a quattro lettere... dimmi. Attenzione. Qual è la parola? Allora, quando qualcuno lo dice, perché nella vivacità poi del confronto ovviamente tutti si lanciano, parlano, urlano. Allora, se a qualcuno gli scappa, c'è pronto in sala regia qualcuno che immediatamente va bip e quindi la parolaccia viene coperta. Stronzate come si traduce? C'è una cosa per tradurre? Bullshit si dice. Sai cosa fanno? Dicono BS. Ma dappertutto no, in radio, qualche volta sì, radio, possono dirlo, eccetera. Chi lo dice è Stern. Ecco, Stern per esempio lì, lui si lancia. Stern chi è, per capire? Stern è questo che ha questo programma molto così alternativo, che è diventato una grande star della radio. Non è quello dei Tea Party, no? No, niente a che fare con i Tea Party, ma lui così parlava molto di sesso, scherzava, insomma ha creato un grande scandalo, però simpaticissimo, molto bravo, e quindi lui in effetti era un po' osé tra virgolette, però anche lui non usava, diciamo, the four letter word o queste cose, the four letter word, ma perché è un crimine federale, credo, addirittura, cioè c'è la Federal Communication Commission che interviene, blocca, eccetera. Signora del Santo, lei userebbe questa parola come ha fatto Telese? Guardi, l'ho trovato squallido. Una persona così non importa quello che dice, perché lo annulla con le sue volgarità. Io queste cose non le sopporto. Uno deve essere in grado, se è intelligente, di esprimere qualsiasi concetto senza usare questi. Ma non perché non siamo cresciuti e ci. Ma neanche per i bambini che oramai ne sa. È proprio per a rispettare se stessi che non si devono. Però io ripeto, ci sono alcuni momenti, alcune situazioni in cui il politicamente scorretto, ora questo magari non è politicamente scorretto, l'uso della parolaccia è consentito all'interno certo di un ragionamento. Per esempio, a un certo punto Telese ha parlato, la faccio sentire, quando ha detto testa di C, non so se in America come si traduce. Non c'è non testa c'è, di C proprio, no, quasi non esiste. Non esiste? Beh no, esiste, si com'è? Direbbe adesso arrossisco di nuovo. Beh no, si direbbe cockhead. Cockhead. Ma non si dice nelle trasmissioni, cioè, ma nemmeno quello delle, come si chiama, quello dei tea parties? L'ho potuto dire in inglese perché così tanto nessuno lo capisce. Quello dei tea parties, come si chiama? Quello del radiofonico. Glenn Beck. No. Glenn Beck piange. Glenn Beck piange, alla Glenn Beck piange. C'è alla radio, in dirette televisive. Fantastico. A un certo punto parte, si lancia in queste straordinarie interpretazioni, commenti, e poi si paralizza e comincia a piangere in diretta. Favoloso. E gli vengono questi lacrimoni. Perché non sono così? Perché io vorrei fare Glenn Beck. Ti manca, se tu aggiungi il pianto in diretta, sono sicuro che insomma. Vorrei essere Glenn Beck. Rush Limbaugh è superato ormai. Glenn Beck domina. Glenn Beck domina. Da domani voglio mandare degli audio di Glenn Beck. Mentre considerato piange. Conservatorissimo, no? Super conservatore, uno dei grandi ispiratori del Tea Parties, con Fox News, e direi molto a destra, e ha creato così molte polemiche, perché ovviamente è molto schierato. E però c'è questa particolarità, grande trascinatore di folle, alla manifestazione di Washington, era uno dei leader, insieme alla signora Palin. Però a un certo punto ci fu una piccola così telecamera nascosta, che gli facevano così una, e dice adesso Glenn comincia a piangere. Allora tu vedi Glenn che così ridacchia un po' così, poi dice ok, dammi un secondo. Allora si concentra, si mette così le dita sulle sopracciglia, e allora si arrossa e poi comincia a piangere. Tant'è. E quindi tu scopri che poi in questi pianti molte cose non gli sono, americani non sono si si coinvolgono magari. Del Santo è un attore nato, Mario Calvo Pratero, è vero? È una bella voce, ma è fantastico. Potrebbe andare da Matrix anche a fare una cosa. Dovrebbe andare come da Matrix? A Matrix, programma Matrix, ma lei ci è andato, è stato da Porta a Porta da Vespa. Guardi che lei non lo conosce bene, Mario Calvo Pratero, con cui ha una persona in comune che si chiama Lapo? No, come si chiama? No, Lupo Rattazzi. Lupo Rattazzi. Chissà che fine ha fatto, mamma mia. Grazie signora del Santo, grazie. Allora, a presto, buonasera. Concludiamo con però un saluto che le vuole dedicare Platero, via. Quella di prima. Old men say never fall in love, but I can't help falling in love with you. A domani, questa è la Zanzara. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare.